Ormai le tecnologie. Mi stanno querelando solo i camorristi per il libro. Va bene, buongiorno a tutti. Questa è la scienza politica. Buongiorno a tutti. Oggi come sapete presentiamo il libro Mafia Export. L'iniziativa è stata appunto organizzata da Lapsus, laboratorio progettuale degli studenti universitari di storia, che inserisce appunto questa iniziativa nel nostro progetto di rinnovamento e di dell'analisi dello studio della storia contemporanea e dei fenomeni odierni, dei fenomeni contemporanei. La mafia appunto si inserisce, il fenomeno mafioso si inserisce perfettamente tra i problemi della società contemporanea e tra i problemi che studenti di storia e in generale comunque studenti universitari devono affrontare per comprendere meglio il mondo di oggi. Il libro rappresenta appunto un testo, se vogliamo, anche rivoluzionario, perché contiene un metodo di analisi, ha dei contenuti sicuramente innovativi e propone anche una novità nell'analisi del fenomeno mafioso, propone un abbandono dei vecchi luoghi comuni e dà una prospettiva più realistica di quello che è appunto il fenomeno mafioso oggi, che non è più radicato unicamente in Italia, ma è un fenomeno globale, globalizzato, e che ormai si è munito di strumenti nuovi, non soltanto la cultura omertosa e la violenza pura, ma anche lo sfruttamento del libero mercato e dei meccanismi economici, inserendosi dall'attività illegale all'interno dei meccanismi e dei circuiti dell'economia legale. Io passo subito la parola, siccome abbiamo molti ospiti e le cose da dire sono tante, passo subito la parola ai nostri ospiti. Ringrazio tutti quanti, da Francesco Forgione, appunto l'autore del libro Mafia Export, ad Anna Canepa. Anna Canepa, che è il sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, Nando Alla Chiesa, docente presso l'Università Statale di Scienze Politiche, e Giulio Cavalli, che durante l'incontro ci leggerà anche alcuni passi sia del libro che di alcune sue opere. Grazie a tutti. Noi avevamo pensato di incominciare proprio con una lettura di Giulio Cavalli, che è in grado di farci introdurci immediatamente nel clima. Arrivo, Scrive con una piccola gag. Il microfono l'avevo speso. Primo impedimento tecnico. Ecco qua. Ok, grazie. Prego. Gli italiani in Australia sono davvero tanti, anzi, se si pensa alla distanza che separa il continente dall'Italia, rappresentano una grossa comunità, con una percentuale del 2,9% sull'intera popolazione, secondo le stime del censimento 2007. Nelle regioni dove si sono stabiliti ormai da oltre 60 anni, sembrano addirittura molti di più. Tale è la ramificazione della loro presenza sul territorio, fanno gruppo, colonizzano interi quartieri, paralizzano le città nei giorni delle loro processioni religiose. Li trovi nei mercati ortofrutticoli, in quelli alimentari, tra le panchine dei porti, nei magazzini di stoccaggio delle merci, nei quartieri bassi e tra quelli della borghesia, conquistati non solo mettendo a frutto l'anima imprenditoriale del genio italiano, ma anche grazie alla spropositata ricchezza accumulata rapidamente e senza apparente ragione da alcuni di loro. I locali, i bar, le pizzerie, i ristoranti italiani si incontrano ovunque. L'Italian Food è un marchio che non teme concorrenza. Per questo esistono centinaia di società di import-export di generi alimentari. e la domanda di prodotti italiani resiste a tutte le crisi di mercato. Nessuno si può quindi meravigliare se verso la fine di giugno del 2007 fa ingresso nel porto di Melbourne un grosso mercantile proveniente dall'Italia. Trasporta container, carichi di generi alimentari. Sui documenti di accompagnamento della merce, il porto di partenza indicato è Napoli. E da dove deve partire, se non da Napoli? Una nave con un carico di circa 4.000 latte da 2,5 kg di pomodori pelati. È tutto talmente naturale, logico, che nessuno può vederci o sospettare qualcosa di strano. Pumarola e Napoli sono un binomio che accompagna l'immagine del Made in Italy in ogni parte del mondo. La piccola anomalia è all'interno delle confezioni metalliche. Al posto dei pelati di San Marzano, nelle latte con tanto di etichetta con pomodoro e Vesuvio erano nascoste 4 tonnellate e 400 kg di ecstasy. Un totale di 15 milioni di pasticche già pronte per invadere il mercato australiano e trasferirne un'altra parte in qualche altro paese. In nessun posto al mondo c'è mai stato un sequestro di ecstasy di queste dimensioni. È un primato storico. Le droghe sintetiche, e particolarmente l'ecstasy, vengono prodotte in Europa. I principali laboratori sono in Olanda e in genere è proprio dei porti olandesi e belgi che partono i carichi per il resto del mondo. Seguono all'incirca le stesse rotte della cocaina, ma in senso contrario. L'unico punto fermo e comune al traffico delle due droghe è che l'andrangheta ne gestisce il brokeraggio e il trasporto su scala internazionale. La merce arrivata a Melbourne ha un valore di mercato enorme, 264 milioni di euro. Ma se si vuole comprendere quanto utile netto riesce a produrre una partita di ecstasy, basta rapportare quei 264 milioni, frutto della vendita al dettaglio, alla cifra dell'operazione di riciclaggio scoperta nella stessa inchiesta, che secondo gli investigatori australiani sarebbe servita al pagamento della merce, 30 milioni di euro. Tutta l'operazione si dilunga per quasi un anno dopo l'arrivo della nave nel porto di Melbourne, periodo nel quale i poliziotti hanno avuto tutto il tempo di sostituire le pasticche di ecstasy con materiale inerte e di osservare gli spostamenti che l'organizzazione stava facendo fare al carico depositato nel suo container sulla banchina del porto. Nello stesso tempo l'indagine si spostava anche sul fronte italiano, dove veniva ricostruita l'altra parte della rete dell'organizzazione. Il 24 luglio del 2008 l'ufficio della dogana di Melbourne riceve una soffiata su un carico di 150 kg di cocaina in arrivo su un container carico di pacchi di caffè. Per la polizia è giunto il tempo di intervenire e chiudere l'indagine. Scattano gli arresti, i sequestri della droga, dei soldi, il possesso dei narcotrafficanti. Alla fine dell'operazione, che oltre all'Australia ha coinvolto Belgio, Olanda e Italia, tra soldi liquidi e beni sono stati sequestrati 500 milioni di euro. Ricchezze inimmaginabili. Tra gli arrestati compaiono i nomi di John William Hicks, uno dei baroni del traffico di anfetamine e fondatore dei Black Hula, la più famosa banda di motociclisti fuori legge, libera di scorazzare per le strade del sud dell'Australia, e Pasquale Pat Barbaro. Pat, come lo chiamano tutti. È figlio di Francesco Barbaro, nato a Platì, 1937. Il padre, a Griffith, compare nella classifica degli uomini più ricchi della città, ma in passato il suo nome è comparso anche nella relazione della commissione speciale insediata dal governo per indagare sull'omicidio del deputato liberale McKay. Secondo i commissari era uno dei calabresi coinvolti nel delitto. Un altro nome, tra quelli degli arrestati per il traffico dell'ecstasy e della cocaina, fa riaprire una vecchia storia che già in passato aveva suscitato polemiche e scontri pubblici sulla stampa. Si tratta di un altro calabrese, Francesco Madafferi. Madafferi è di Oppido Pamertina, un piccolo comune sulla piana di Gioia Tauro. Da giovane è coinvolto nel sequestro della figlia del sindaco di Oppido. Viene arrestato, poi rilasciato, altre piccole vicende giudiziarie, porto d'armi abusivo, reati minori. È la storia di tanti giovani della piana, dell'Astromonte, della costa ionica reggina. Nel 1989 raggiunge i suoi fratelli a Melbourne. Non ha permesso di soggiorno, ma riesce a vivere tranquillo e clandestinamente nella città australiana. Ha solo un visto turistico, ma quando viene fermato nel 2000 è scaduto da circa 12 anni. Anni nei quali ha avuto il tempo di sposarsi, fare dei figli, oltre che frequentare la comunità calabrese che già conosceva bene e nel quale è inserito anche suo fratello. In realtà, quale comunità frequentasse era ben chiaro anche prima dell'arrivo delle due navi nel porto di Melbourne nel 2007 e nel 2008, che lui aveva contribuito a far attraccare con il loro carico prezioso. Gli ambienti e circoli che frequentava, come il club sociale Reggio Calabria, nel sobborgo di Parkville, erano gli stessi frequentati dai Perry, dai Barbaro, dai Sergi, persone ben note alla giustizia e alle autorità australiane, oltre che all'opinione pubblica, che ricorrentemente trovava sui giornali le cronache delle loro storie e dei loro traffici. Quando lo trovano senza permesso e lo arrestano per immigrazione clandestina, esplode subito la polemica. Secondo la legge viene avviata la procedura di espulsione, ma la comunità italiana si ribella, trasforma il caso in una battaglia per i diritti umani, visto che Madafferi ha moglie e figli che sono cittadini australiani. L'apparato mediatico della comunità italiana è forte. I due giornali in lingua, Il Globo e La Fiamma, fanno addirittura campagne al suo sostegno, con i direttori che si schierano in prima persona, assieme ai principali esponenti delle associazioni degli italiani. Per la giustizia australiana non c'è soluzione, Madafferi deve essere espulso in Italia. Ma potrebbe intervenire il ministro dell'immigrazione, anche se non è una prerogativa contemplata dai suoi poteri costituzionali. Infatti, il ministro del tempo, Philip Ruddock, ne decreta l'espulsione e fino all'esecuzione del provvedimento decide di trattenerlo in carcere. Tra ricorsi, obiezioni procedurali, contestazioni degli avvocati, camere di consiglio della magistratura, la pratica continua a trascinarsi fino al 2005, fino a quando cambia il ministro e al posto di Ruto a guidare le politiche dell'immigrazione del governo australiano arriva la signora Amanda Eloisa Bastoli. La ministra è una donna di potere, di lungo corso, è senatrice, Partito Liberale dal 1984. Negli ultimi 20 anni ha ricoperto praticamente tutti i ruoli chiave del governo, ministro del lavoro, dei trasporti, delle politiche giovanili, della giustizia, della famiglia, dei servizi sociali e per finire dell'immigrazione. La ministra, mossa da motivi umanitari, annulla il decreto di espulsione e con la sua decisione consente a Madafferi di diventare cittadino australiano a pieno titolo. La Bastoli viene pesantemente attaccata per la decisione. Per difendersi lei dice di aver vagliato le condizioni di salute del calabrese e le ricadute psicologiche sul resto della famiglia e di aver deciso, in coerenza con gli obblighi previsti dall'ONU in materia di immigrazione. Di diversa opinione invece sono molti settori dell'opinione pubblica che tirano fuori le storie più preoccupanti che riguardano Madafferi. In particolare c'è un giornale di Melbourne, il Deitch, racconta una storia di finanziamenti da parte dei sostenitori di Madafferi al partito conservatore della ministra Bastoli. La polemica arriva in Italia, dove un magistrato della direzione antimafia, intervistato da San Era di Sydney, sostiene che per la legge italiana Madafferi è oggetto delle misure di sorveglianza speciale applicate a persone molto pericolose per la società. Qui in Italia, dice, Madafferi era una persona considerata una minaccia alla società. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le dichiarazioni rilasciate dall'allora presidente della commissione parlamentare antimafia, alla radio australiana. Un anno dopo il suo arresto per traffico di droga, nel 2009, nel corso dell'udienza per ottenere la scarcerazione dietro cauzione, il capo della polizia investigativa si oppone fermamente alla richiesta di scarcerazione di Madafferi. Ricostruisce, nei minimi particolari, un tentato omicidio avvenuto poco prima del suo arresto, nel quale Madafferi era presentemente indiziato. Era stato Madafferi ad attirare la vittima, dando l'appuntamento nel luogo dove era stato deciso che sarebbe stata assassinata, il club Reggio Calabria. Però un incidente bloccò la strada, con l'auto distrutta, coloro che secondo il capo della polizia avrebbero dovuto essere poi gli esecutori materiali dell'omicidio, Pasquale Barbaro e lo stesso Francesco Madafferi. Insomma, le ragioni umanitarie, che tanto hanno impietosito la ministra dell'immigrazione Bastoli, consapevolmente o meno, di fatto hanno consentito a Francesco Madafferi di inserirsi organicamente nella famiglia Barbaro, di trafficare ecstasy e cocaina, di organizzare omicidi. Ma avrebbero anche consentito al partito della ministra, qualora le accuse dei giornali fossero riscontrate, di ricevere però degli ottimi finanziamenti. Nel febbraio 2009 in Australia è comparsa la notizia che le autorità avrebbero riaperto un'indagine sui finanziamenti e le donazioni che il Partito Liberale avrebbe ricevuto da persone facoltose del mondo economico e imprenditoriale, riconducibili alla mafia calabrese. La notizia è stata occasione di nuove polemiche, anche perché tra i nomi della nuova indagine, secondo alcune fonti giornalistiche, compare quello di Antonio Madafferi, il fratello di Francesco. Nel frattempo la senatrice Bastoli, forse per essere tolta dalla polemica, è stata nominata ambasciatrice dal 2007, rappresenta il governo australiano in Italia. Come abbiamo notato in apertura del libro, quando i rapporti delle mafie arrivano a sfiorare la politica, il potere, scattano le ipocrisie, i virtuosismi, i legali, le ragioni superiori, siano esse umanitarie o di Stato, il cui unico risultato, però, è l'inazione, il più grosso favore che si possa fare alle mafie. Probabilmente al momento della decisione presa dal governo non c'erano altre sedi diplomatiche disponibili. Se si è deciso di spedire la ministra chiacchierata il più lontano possibile dal suo paese per alleggerire lo scontro sul caso Malafferi e sui suoi rapporti con la comunità calabrese, sorge però una domanda imbarazzante. Come interpretare, se non quale segno di grave miopia, la scelta della destinazione italiana, ignorando il fortissimo cordone umbilicale che lega la comunità calabrese in Australia con quella della madre patria e tutto il portato di interessi, pressioni e legami più o meno leciti? Si può solo sperare che si tratti semplicemente di miopia. Del resto, l'atteggiamento delle autorità australiane nei confronti delle organizzazioni mafiose sia quantomeno reticente, lo si può leggere dalle ultime valutazioni e dalle più recenti scelte dei governi, di qualunque schieramento politico che si sono succeduti. Nel 2002 la polizia australiana ha chiuso l'ufficio di Roma, ha ritirato in patria gli uffici di collegamento che dal 1990 assicuravano lo scambio di informazioni tra organi investigativi e le magistrature italiane e australiane. Dopo il 2001, per le autorità australiane, la priorità è diventata il terrorismo islamico internazionale. Ed è evidentemente un ufficio preposto allo scambio di informazioni sull'attività delle mafie italiane nel loro territorio che rappresentava un costo morto e non più sostenibile. Il perché lo scrivono nei loro ultimi documenti ufficiali, scrivono: non esistono organizzazioni criminali di stampo mafioso all'interno della comunità australiana. Mentre gruppi di australiani prevalentemente con origini dell'Italia meridionale, particolarmente della Calabria, sono più coinvolti in attività criminali di tipo organizzato, è inesatto considerare questi gruppi ramificazioni di organizzazioni estere. Gli ultimi omicidi sul loro territorio risalgono molto tempo addietro, e fatta salva qualche polemica strumentale, le mafie italiane non creano problemi tali da scuotere l'opinione pubblica e la percezione della sicurezza dei cittadini. In fondo anche i codici dell'Andrangheta, con le formule e riti di giuramento ritrovati proprio in Australia e riportati in Italia da Calibri, sono ormai cose del passato. Un po' di folklore portato da poveri analfabeti giunti dalle montagne della Stromonte. Grazie a Giulio Cavalli per questa lettura che ci ha introdotto in uno dei passaggi più rivelatori di questo libro, Mafia Export, scritto da Francesco Forgione. Francesco Forgione è conosciuto, ma io penso, non sono di quelli che dicono non ha bisogno di presentazioni, bisogna sempre ricordare che cosa fanno le persone. Francesco Forgione è stato presidente della Commissione Antimafia nella legislatura 2006-2008, la Commissione Parlamentare Antimafia, ha una lunga esperienza maturata in questo settore, sia nella sua attività politica e pubblicistica in Calabria e in Sicilia, e attualmente insegna storia e sociologia delle organizzazioni criminali all'Università dell'Aquila. Questo libro è la prosecuzione della relazione della Commissione parlamentare 2006-2008, ma con degli sviluppi importanti. Vengono presi in considerazione in modo comparato i tre modelli di organizzazione criminale più forti in Italia, Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra, dove però la parte del leone continua a fare l'Andrangheta, che quella che ha attirato maggiormente le attenzioni di quella commissione parlamentare e che si rappresenta oggi come l'organizzazione criminale più forte e come la leader mondiale nel settore del traffico degli stupefacenti. Quello che è stato letto è un brano rivelatore perché ci racconta delle cose che meritano di essere un po' messe sotto la lente di ingrandimento. Ci racconta che l'Andrangheta è capace di uccidere ad alto livello anche in Australia, in paesi lontani dove teoricamente non si dovrebbe avere interesse a commettere questi delitti, perché si potrebbe immaginare che in un paese non abituato a queste scorrerie criminali immediatamente scatti la reazione dell'opinione pubblica e dei governi. Invece vediamo che non è così. Vediamo che i governi, per quelle combinazioni che ogni tanto la storia sa offrire, tirano fuori non l'uomo giusto ma la donna giusta per l'Andrangheta nel momento in cui bisogna garantire delle sicurezze all'esponente coinvolto in quel delitto, omicidio di un deputato, che al momento giusto questa donna viene mandata come ambasciatrice e rappresentante diplomatica per l'Australia in Italia e non poteva sicuramente esserci scelta più infelice. Si dimostra che l'Australia, anche lei, diciamo, visto che siamo all'Università Statale di Milano, come la Lombardia, ama sostenere che in Australia non ci sono le organizzazioni mafiose e trova tutti i cavilli per spiegare, dal punto di vista, naturalmente immagina che siano cavilli in grado di spiegare, però li utilizza per dire che non sono ramificazioni delle organizzazioni italiane in Australia, quindi non si possono chiamare mafia perché la mafia è soltanto in Italia. E poi questa funzione che svolge la stampa italiana all'estero, su cui si ragiona troppo poco, che è una funzione spesso di servizio per le organizzazioni criminali. Non bisogna mai dimenticare che cosa fa la stampa italiana negli Stati Uniti a sostegno di Sindona, del finanziere criminale mafioso che è riparato negli Stati Uniti e che è fortemente sostenuto dalla stampa italiana alla fine degli anni 70. Sindona è un perseguitato, in Italia non hanno il coraggio di dirlo, ma negli Stati Uniti la comunità italiana lo dice a chiare lettere, organizza delle riunioni in suo favore e anche questo dà da pensare. Le ragioni di riflessione offerte dal libro sono tante, il libro spazia in tre continenti almeno, Europa, America e Australia. Separando l'America del nord, del centro nord dall'America latina, dall'America del sud, unisce il Messico agli Stati Uniti per ragioni geografiche evidenti e ci offre questo spaccato di una penetrazione delle organizzazioni criminali nel mondo veramente impressionante, che va al di là dell'immaginazione, così come vanno al di là dell'immaginazione le notizie che ci vengono riportate sui giornali, sulle prime pagine in questi giorni. Diciamo prima, Conforgione è peggio di quanto immaginiamo, è veramente peggio di quanto immaginiamo, anche se siamo quelli che cercano di offrire la visione meno edulcorata della presenza delle organizzazioni criminali, ciò che stanno producendo nell'economia, nella società, nel mondo è peggio di quello che noi immaginiamo. D'altra parte basta passare in rassegna le articolazioni di queste organizzazioni. A me ha colpito per esempio che un gruppo tutto sommato secondario, anche se altamente capace di compiere delitti come l'Alleanza di Secondigliano, è sparsa, ramificata in Europa, nell'America del Nord, nell'America Latina. Non stiamo parlando dei clan che hanno fatto la storia di una di queste organizzazioni, ma di un clan che ha una storia abbastanza recente e che è anche stato indebolito da alcune iniziative degli apparati repressivi, degli apparati giudiziari dello Stato. La sua ramificazione è impressionante, non parlo naturalmente di quella dei gruppi maggiori dell''Ndrangheta o di Cosa Nostra. L'immagine più felice è forse quella iniziale, che è la meno folcloristica, che ogni tanto Forgione indulge, ma anche per compiacere il lettore, a darci queste immagini dei pomodori, della pizza, delle teglie, le polpette, di questi beni di consumo gastronomico che vengono dalla Calabria e mettono il loro imprinting in ogni passaggio delicato degli affari e dei crimini. Ma forse l'immagine più bella è quella di San Luca e il mondo con cui si apre il libro. San Luca e il mondo per dirci che stiamo assistendo a qualcosa di spettacoloso, cioè piccolissime comunità che colonizzano il mondo, non il mondo che colonizza come noi pensiamo le piccolissime comunità e li porta le sue leggi, i suoi costumi, la globalizzazione che tutto sommerge, ciò che è piccolo, pastorale, agricolo, che viene sottomesso alle regole del mercato, no, è il contrario. È il piccolissimo comune che va alla conquista del mondo e ci porta le sue leggi e le sue regole. E questo dal punto di vista sociologico ha un interesse strepitoso, perché non è mai accaduto. Bisogna capire come mai è accaduto. E il nostro sforzo intellettuale, scientifico, non può che essere indirizzato in quella direzione. paesi di poche migliaia di abitanti che corrompono governi, che corrompono economie, che piazzano i loro uomini con una strategia del tutto mirata, decidendo centralmente chi deve andare a impiantare qualcosa a Norimberga o a Francoforte, chi deve andare in Spagna. Non c'è mai nulla di casuale in questa strategia, si individuano i posti e ogni clan sceglie di andare nei posti del mondo in cui può impiantare affari senza entrare in conflitto con altri clan, cioè si calcola qual è la collocazione dei propri possibili rivali che diventeranno alleati proprio perché c'è una spartizione delle aree e si sceglie di penetrare, di conquistare quelle città. L'immagine di San Luca e il mondo è quella che spiega, secondo me, è la suggestione scientificamente più potente, culturalmente più potente del libro. E poi su questa strada, naturalmente, vengono ripercorse le rotte della penetrazione e di quelle che possiamo chiamare le colonizzazioni di vari punti del pianeta. Un secondo aspetto che mi sembra interessante è quello della disponibilità finanziaria dell''Ndrangheta. Noi stiamo dicendo che l''Ndrangheta è più forte di Cosa Nostra, ed è una verità su cui sono d'accordo tutti, ne riparleranno poi Forgione e Anna Canepa, cui per dovere di ospitalità, essendo docente di questa università, darò il maggior tempo possibile. Però questo colpisce, che non soltanto l''Ndrangheta sia più forte di Cosa Nostra, ma che finanziariamente venga chiamata da Cosa Nostra a finanziare delle operazioni che Cosa Nostra non è in grado autonomamente di finanziare. Certi carichi hanno un valore tale che Cosa Nostra non se li può permettere, ma l''Ndrangheta sì. E dunque sono questi clan che vengono chiamati e che hanno sul mercato criminale un'affidabilità tale da poter comprare tonnellate di cocaina sulla parola. Sulla parola. Questa è la forza che dipende anche dalla consapevolezza che si è fatta strada nel sistema delle organizzazioni criminali mondiali delle disponibilità finanziarie dell''Ndrangheta calabrese. Questa organizzazione considerata fino a pochi anni fa anche a Milano in Lombardia come il residuo di organizzazioni antiche e destinate a scomparire sopraffatte dai processi di modernizzazione, dagli sviluppi dell'economia di mercato. C'è il concetto infine di network, di sistema delle imprese, ma su questo poi torneremo perché è molto interessante capire come si articola davvero questa famosa holding, no? Una holding che non esiste perché di fatto è la stessa organizzazione che si impregna di imprese e impregna le imprese, dove i cognomi sono sempre gli stessi perché c'è una fitta rete di parentele che è predisposta a gestire sistemi anche complessi, dove dicono gli investigatori ormai per segnalare il rapporto tra le imprese e l'organizzazione dobbiamo mettere anche non soltanto l'anno di nascita ma anche il giorno e il mese di nascita perché i cognomi sono sempre gli stessi. E anche gli anni, a volte, quando sono in ballo le seconde generazioni, sono gli stessi. Sono i cugini, sono i fratelli, sono i cognati. Diventa molto complicato entrare dentro questa holding perché è al riparo di un sistema di omonimie che è capace di creare le più alte difficoltà possibili proprio agli investigatori. Allora io chiederei prima ad Anna Canepa. Anna Canepa è una magistrata che ha una ricca storia di impegno contro le organizzazioni criminali. Attualmente è presso la Procura Nazionale Antimafia con il coordinamento dell'attività della Procura sulla Lombardia e sulla Liguria. È stata due volte in Sicilia come giudice ragazzina all'inizio della sua carriera, poi come volontaria a Gela nel momento in cui i palazzi di giustizia siciliani erano e sono ancora particolarmente sguarniti. Ecco, Anna Canepa ha lavorato molto su queste organizzazioni. l'abbiamo invitata anche a Scienze Politiche recentemente e il suo incontro ha lasciato anche un segno profondo nella consapevolezza degli studenti, che non si aspettavano una consistenza così alta e una presenza così diffusa dell'Ndrangheta a Milano, nell'Interland e in Lombardia. Ecco, chiederei allora ad Anna Canepa di incominciare di raccontarci che cosa l'ha colpita soprattutto in questo libro, pur forte della sua esperienza, perché è difficile leggerlo senza sussultare qualche volta. Grazie. Grazie di avermi invitato e grazie a voi che avete la pazienza di starmi ad ascoltare. Io sono stata molto contenta di poter essere qui a Milano a presentare questo libro, che secondo me ha un titolo particolarmente intrigante. Dico subito che è un libro per non addetti ai lavori, ma che ha colpito me che addetta ai lavori sono, perché ci porta oltre i confini di quelli che sono i territori notoriamente controllati dalla mafia. L'impatto con questo libro è che sembra un romanzo avvincente, invece è una cronaca assolutamente puntuale, che consente di conoscere e comprendere qual è questo fenomeno e il fatto di come si è sviluppata una vera e propria migrazione criminale nel mondo. Sono contenta di essere qui a Milano a presentare questo libro da questo titolo così intrigante, perché notoriamente a Milano la mafia non esiste. Chissà perché però a Milano viene sequestrato un terzo di tutta la droga che viene sequestrata in Italia. Chissà perché a Milano vengono sequestrati, è la quarta città in Italia in cui c'è un sequestro di immobili di proprietà mafiosa. Qualche problema ci deve essere, quindi non solo il libro di Forgione ci consente di capire qual è stata l'immigrazione nel mondo, ma ci consente anche di uscire da quel conformismo e ci dà la possibilità di sfatare quei luoghi comuni che sono stati il reale problema della compressione del fenomeno nelle terre non tradizionalmente occupate dalla criminalità organizzata come il Nord Italia e a maggior ragione come l'intero mondo. Dobbiamo assolutamente essere consapevoli che non esistono più isole felici. Questa è una frase che si sente dire. Io sono stata recentemente audita in commissione antimafia, un'altra commissione antimafia, e dove abbiamo dovuto aprire gli occhi erano già aperti, e dobbiamo dire grazie anche al lavoro che è stato fatto nella commissione antimafia presieduta da Francesco Forgione, però abbiamo dovuto ribadire questi concetti fondamentali, che la mafia è come se esiste nel Nord Italia, è una mafia diversa, è la mafia invisibile, una mafia molto più difficile da comprendere, da cogliere, da combattere, ma forse per questo è ancora più pericolosa. Quindi questo libro ci consente di uscire veramente dai luoghi comuni e di capire che la mafia non è solo un problema criminale, ma è un problema culturale, è un problema sociale, è un problema politico ed è un problema democratico. Quello che sta accadendo in questi giorni in Italia ci evidenzia quanto sia un problema democratico, perché il potere e la politica, abbiamo la mafia, oggi c'è una bellissima vignetta, mi sembra, su Repubblica, in cui dice che si è attuata la par condicio, perché in Parlamento avevamo mafia, camorra e adesso abbiamo anche l'Ndrangheta, quindi siamo, come dire, ed è purtroppo vero, perché attraverso l'avvicinarsi alla politica la mafia condiziona il voto e condiziona la democrazia di un paese. Su questo dobbiamo avere assoluta consapevolezza. Il problema che questo libro ci aiuta a superare, anche noi addetti ai lavori, è proprio un problema di ritardo culturale di approccio a comprendere questo fenomeno. Perché intanto dobbiamo essere tutti consapevoli che non si tratta di un'emergenza, ma di un problema strutturale che ci portiamo dietro, potrei dire, da secoli, dall'Unità d'Italia. Cioè non è l'emergenza, non abbiamo bisogno di leggi emergenziali, abbiamo bisogno di comprendere e di capire. Si è sempre pensato, e ci piace nasconderci dietro il fatto, che la mafia sia un fenomeno violento, un fenomeno che si manifesta con azioni eclatanti, con omicidi, sì. Il prodotto di un mondo arretrato. Non si sente? Non si sente, scusate. Il prodotto di un mondo arretrato e che parlare della mafia sia un ostacolo allo sviluppo economico di un paese. Questo è un errore che hanno fatto anche all'estero, l'Australia ad esempio, perché non conviene, non ci porta i turisti se non parliamo di mafia. In realtà bisogna parlare di mafia, bisogna comprendere i fenomeni e bisogna smettere di sottovalutare il problema. Dobbiamo smettere noi, deve smettere l'Europa, L'Europa che si è svegliata drammaticamente il giorno di Ferragosto del 2007 e ha preso contezza, come se non mai avesse avuto contezza, e questo non è vero, il libro ce lo fa capire, dal 2000 il DKA tedesco, che è la criminal point, un po', aveva un rapporto sul fenomeno San Luca e invece si è svegliata, ha perso l'innocenza il giorno di Ferragosto con la strage di Duisburg, come se fosse stato quello era la punta di un iceberg che si stava allargando e che da tempo, e dal libro di Francesco ci aiuta a capire quanto ramificata sia, ed è di questi giorni abbiamo visto come l'andare a recuperare le schede elettorali in bianco per poi far votare un soggetto che neanche aveva la residenza all'estero, ci fa capire poi come ci si muove in queste realtà. E un grande aspetto positivo di questo libro è che mette l'accento su quello che è il reale problema dell'esportazione delle mafie nel mondo, cioè il discorso finanziario ed economico. Mentre il mondo è piegato dalla crisi economica, per le mafie il momento della crisi economica rappresenta un momento magico. Tenete presente che le mafie hanno una quantità di soldi liquidi che i governi si dimenticano. Il traffico di droga, Francesco spiega anche questo nel libro, aiuta e ci racconta il ciclo della coca proprio per farci capire dalla chilo di coca che viene venduto dai narcos colombiani quali sono i ricavi pazzeschi di denaro liquido. Quindi in un momento di crisi di liquidità mondiale la criminalità organizzata ha tutti questi denari da investire. E come e dove li investe? La metà dei ricavi vengono reinvestiti nell'illegalità, vengono reinvestiti nel traffico di cocaina, ma l'altra metà viene reinvestita nelle attività lecite e legali, ed è questo il punto problematico su cui nessuno può più tirarsi indietro. I governi devono smetterla di rimuovere il problema. Abbiamo assistito veramente a una sorta di rimozione collettiva, non solo in Italia, in Europa e nel mondo. La mafia, e ha ragione anche Nando Dalla Chiesa quando evidenzia di come negli anni, nell'indifferenza di tutti, la vera mafia, la mafia più potente, sia diventata l'Ndrangheta, che dal freddo paesino di San Luca, la descrizione del libro ci dice quanto sia isolato tra le montagne, si è esportata in tutto il mondo, perché la sua struttura è una struttura così agile, basata sui rapporti familiari, impermeabile alle collaborazioni che hanno piegato in qualche modo Cosa Nostra siciliana, riducendone il potere, in questo suo modo le 'ndrine si sono esportate in tutto il mondo. E tutta questa liquidità viene assolutamente investita. Come intervenire nei confronti di queste mafie che ormai, come Francesco ha definito nel libro, fornendocene anche la possibilità di verificare in concreto le mappe, è la prima volta che viene mappata. Francesco ci tiene a sottolineare che non è un qualche cosa di totalmente esaustivo, però ha avuto un'idea geniale, perché noi possiamo toccare con mano, vedere visivamente qual è stata l'export delle mafie nel mondo. Quindi che cosa si può fare? In genere mi si dice che l'immagine che do io è un'immagine disperata. Assolutamente no, se no non saremmo qui. Bisogna sempre provare a resistere all'export delle mafie nel mondo. Il contrasto, su questo io mi trovo estremamente d'accordo con Francesco Forgione, che nel libro dice che si è sottovalutata questa dimensione internazionale, soprattutto si continuano a sottovalutare i risvolti finanziari, perché non ci si pone il problema dei mercati senza frontiere, mercati senza frontiere che sono assolutamente aggredibili da tutta quella liquidità di denaro di cui vi dicevo prima. Il primo problema sarebbe quello di affrontare una armonizzazione delle legislazioni. Il terrorismo, la paura del terrorismo dopo il 2001 ha fatto sì che i governi si preoccupassero di una certa armonizzazione. Fondamentale, ad esempio, è stato il riconoscimento dell'Ndrangheta da parte degli Stati Uniti d'America come una delle principali organizzazioni di narcotraffico, e questo consente che nel momento in cui il Dipartimento del Tesoro americano riconosce un soggetto come appartenente all'Ndrangheta, vista nell'ottica di organizzazioni nazione fiancheggiatrice della Colombia, che viene considerato il primo paese esportatore di sostanze stupefacenti, il soggetto andranghettista che venga riconosciuto tale dal Dipartimento del Tesoro può essere oggetto di ablazione di beni. Questa è una cosa molto importante, però tenete presente che anche solo in Europa, pur nella consapevolezza dell'esportazione della criminalità organizzata, ci sono molti paesi europei, tra cui l'Olanda ad esempio, che ha come dire l'andrangheta in casa, perché fior di latitanti sono stati arrestati ad Amsterdam ancora di recente, non riconosce il reato di cui all'articolo 416 bis, il reato di associazione mafiosa. Questo è estremamente problematico, perché comporta anche la difficoltà di ottenere l'estradizione dei soggetti che sono imputati solo di associazione mafiosa e non anche di reati fini. Quindi l'Europa in primo luogo dovrebbe davvero porsi un problema di armonizzazione delle legislazioni, e ogni paese dovrebbe farlo. Sicuramente la prospettiva del nostro paese non è ottimismo. Vediamo cos'è stata lo scudo fiscale. Ieri, sempre sui giornali, io invito tutti a leggere i giornali perché sono una fonte quotidiana di spunti, ci diceva che l'Ufficio Italiano Cambi ha fatto segnalazioni ridicole rispetto alla possibilità di provento di riciclaggio di questi denari che sono rientrati con lo scudo fiscale. Quindi da un lato ci allarmiamo, ma dall'altro lato quelle che sono le politiche legislative dei paesi vanno forse in senso contrario. Segnala sempre Francesco Forgione che quello che era uno dei pallini di e anche di chiunque si occupi di queste materie nel campo giudiziario, di Giovanni Falcone, l'anagrafe tributaria dei conti correnti, era stato introdotto per legge nel 1998 e ha trovato i regolamenti attuativi solo nel 2006. 93. Sì, 93, sono passati 18 anni e nel frattempo è successo di tutto. Voglio dire, è arrivato internet, lo evidenzia Francesco, questo per dire con quanto ritardo si affrontano questi problemi. E mi è piaciuto moltissimo nel libro, e farò mia questa frase citandone sempre l'autore, perché secondo me qui sta il punto, e le note vicende di ieri sui giornali, il fatto che questi capitali mafiosi si siano ormai infiltrati in ogni fessura come l'acqua, mi riferisco alla vicenda che ha visto coinvolto Fassbender e soprattutto il senatore Di Girolamo, facendomi con nome sui giornali di oggi, fa sì che io mi ritrovi esattamente in questa frase con cui voglio concludere questo mio intervento, perché Francesco Forgione dice: può e deve esistere una politica senza mafia, non possono esistere mafie senza il concorso e le collusioni della politica. Questo è il nocciolo della questione. Grazie. Io darei la parola adesso a Francesco Forgione, ci presenterà il libro, lo sforzo, gli obiettivi che si prefiggeva scrivendolo e anche un po' quello che ha imparato. Nel libro lo ha trasfuso, ma secondo me c'è di più di quello che ha messo nel libro, nella sua funzione di Presidente della Commissione parlamentare antimafia, perché quello è stato un osservatorio importante perché lo ha messo in contatto un po' con tutti i poteri dello Stato, un po' con tutte le istituzioni, oltre che con le espressioni di società civile, ma è importante capire retrospettivamente, alla luce di quello che sta accadendo, le istituzioni come si muovono, ecco, quali sono le logiche che muovono le istituzioni di fronte all'andrangheta. Ora è stato fatto questo esempio dell'anagrafe dei conti correnti, che cos'è che... Quali sono i punti di maggiore vischiosità? Tienine conto quando rispondi. Grazie. Intanto grazie a voi tutti per essere qui per discutere di Mafia Export, e ovviamente a Nando, ad Anna Canepa e a Giulio Cavalli per la lettura che ha fatto. Io partirei proprio da questa domanda sulle istituzioni. Sì, per me l'esperienza della Commissione Antimafia è stata un'esperienza particolare, perché io per anni, facendo antimafia con la società civile, da un osservatorio terribile e straordinario che è l'Assemblea regionale siciliana, dove ho fatto per 10 anni il deputato, avevo posto sempre domande dall'altra parte, alla Commissione parlamentare antimafia, alla politica, ai responsabili delle istituzioni di contrasto. Quando mi sono trovato io nella veste di dover dare le risposte a quegli altri che come me me le ponevano da presidente, quindi dall'espressione più alta del Parlamento e della politica e delle istituzioni nel contrasto alla mafia, io davvero ho avuto una grande angoscia, fretta e angoscia, fretta di fare delle cose e l'angoscia di non riuscire a rispondere a quelle domande che per tanti anni avevo posto io. Credo che questo è un problema per chi fa politica non rinunciando mai, come diceva Gramsci, a quella connessione sentimentale con il popolo che vuole rappresentare, in questo caso il popolo dell'antimafia, della società civile organizzata, e, perché le istituzioni spesso rappresentano e sono un luogo separato, quindi il compito che noi abbiamo è ricostruire questo legame sociale tra la politica e le istituzioni e i popoli, e il popolo e la gente. E i tempi lunghissimi della pratica istituzionale. Io mi ricordo che quando si è trattata di fare la legge che noi proponemmo e poi facemmo per parificare le vittime della mafia alle vittime del terrorismo, la prima risposta fu del ragioniere del generale dello Stato Monorchio e del ministro Padoa-Schioppa, tra l'altro un ministro di un governo che noi sostenevamo in quel momento. La prima risposta di fronte al disegno di legge e fu una cosa che io ritengo intollerabile, fu la proiezione dei morti possibili nell'arco di 10 anni per documentare che di fronte all'esigenza di tagli della spesa pubblica quella proiezione portava all'impossibilità di finanziare la legge per la parificazione tra le vittime della mafia e le vittime del terrorismo. Io ricordo una mia telefonata furibonda sia con Visco, allora ministro del Tesoro, che poi anche difficile e complicata con Prodi che non ne sapeva niente, anche con Padoa-Schioppa, ha detto: guardate, se voi valutate il valore civile di una legge in termini di conto, profitti e perdite, è inutile che discutiamo. Cioè non... diedi quella lettera, ricordo, al Corriere della Sera, Giovanni Bianconi, e fece il titolo in prima pagina: lo Stato non ha i soldi per le vittime della mafia. Quanto è difficile, poi l'abbiamo conquistata, ma che fatica conquistarla anche con una maggioranza che pure sosteneva l'azione della Commissione. E poi il lavoro d'inchiesta della Commissione. Il lavoro d'inchiesta della Commissione è un lavoro complicato, lì davvero ci vuole una forte passione civile di chi presiede la Commissione, di chi la dirige. La Commissione parlamentare antimafia preferita da me è durata 1 anno e 3 mesi, compreso Natale, Pasqua e le vacanze estive. Noi abbiamo fatto la relazione sull'Andrangheta, la prima relazione sui beni confiscati, e tra l'altro per la prima volta portammo a discutere in Commissione Antimafia Luigi Ciotti, cioè l'esperienza dei movimenti sociali antimafia, quelli che sui beni confiscati non ci facevano solo la teoria, appunto come ce la poteva fare Visco e Padoa-Schioppa, ma l'esperienza vissuta dai ragazzi che stanno sui terreni, le cooperative. Io ricordo che la Commissione Antimafia non aveva proposto di imprese, non aveva mai convocato un presidente della Confindustria. In quell'anno e 3 mesi Montezemolo è venuto 2 volte a discutere con noi non solo del pagare o non pagare il pizzo, ma di come gli imprenditori si rapportano al sistema degli appalti e ai meccanismi della corruzione in terre di mafia. E sarebbe interessante rileggere gli stenografici di quelle audizioni. E 2 volte portammo a discutere con noi il governatore della Banca d'Italia. In 1 anno e 3 mesi non metteva piede nel Parlamento dai tempi della Commissione Violante, forse c'eri tu ancora in quella commissione, un governatore della Banca d'Italia. E perché? Perché avevamo individuato nel tema dell'economia il salto di qualità nei rapporti tra la mafia e la politica oggi, perché oggi è la forza economica delle mafie che consente loro di ricontrattare i rapporti con la politica. Una volta, e questo spiega anche di Gerolamo, le vicende che stiamo leggendo oggi, io non so poi se Nando è d'accordo, una volta negli anni dell'andreottismo come filosofia e come pratica del potere, e negli anni di Ciancimino, della vecchia DC, di quelle classi dirigenti che colludevano con la mafia nella cosiddetta Prima Repubblica, le mafie avevano bisogno della politica per controllare il sistema degli appalti, per ottenere i flussi di denaro pubblico, per avere le modifiche dei piani regolatori, eccetera eccetera. Oggi è la forza economica che le mafie hanno negli anni del processo di privatizzazione della politica, che hanno sul territorio, capace di sostituirsi all'assenza di politiche pubbliche, incapaci da parte dello Stato e delle classi dirigenti ad affermare diritti esigibili, diritti universali, il lavoro, il diritto alla salute e alla sanità. Le mafie si sostituiscono con la loro forza economica sul territorio, producono consenso, e tu politica non ne puoi prescindere più da quel consenso creato dalla forza economica e dalla dimensione imprenditoriale e produttiva delle mafie. E questo ti imprigiona in un rapporto che, se poi hai la presunzione di governare, alla fine invece te ne trovi cooptato e imprigionato. E quanto è avvenuto in Campania con la vicenda dei rifiuti, e quanto è avvenuto in vari posti della Calabria, e quello che sta avvenendo oggi. Basta leggere le intercettazioni telefoniche, per fortuna che ci sono, perché ci danno uno spaccato anche del degrado sociale, civile, morale della politica. Perché se uno legge che un imprenditore corrotto e abbastanza, diciamo, compulsioni delinquenziali accertate, gli dice a un parlamentare: tu non sei nessuno, sei il mio portiere, sei uno schiavo, ma cioè, e quello sta lì a rappresentare il popolo italiano, si scusa. Cioè, lui dice: no, scusa, io se sì. Io non l'ho potuto, cioè, e meno male che le possiamo leggere queste cose. Perché? Perché non avendo più i filtri che una volta i partiti rappresentavano sul territorio, tu sei impossibilitato anche a capirli questi meccanismi. Una volta le relazioni di minoranza nelle commissioni parlamentari antimafia no, le firmava Pio La Torre, ma le scrivevano i segretari delle Camere del Lavoro, i segretari del Partito Comunista Socialista, che stavano sul territorio ed erano le antenne vere. Oggi i partiti non sono più i partiti di massa. E quando tu fai un'inchiesta hai bisogno del lavoro investigativo, del lavoro della magistratura, della ricostruzione delle inchieste. Quindi l'esperienza della Commissione Antimafia cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato un insegnamento, che se uno ci mette una forte passione sociale e civile, anche le istituzioni possono trovare una sintonia. Io in quell'anno e mezzo entravo in commissione alle 8:15, uscivo alle 9 di sera, ma quando non stavo in commissione ero in giro con le associazioni, con i familiari delle vittime, con i gruppi di volontariato, cioè per creare una sintonia tra il lavoro parlamentare e l'antimafia sociale. Abbiamo fatto la prima relazione sui testimoni, abbiamo fatto una legge che modificava lo scioglimento dei consigli comunali per intervenire sulla pubblica amministrazione, poi l'attuale Parlamento l'ha modificata in peggio, e poi la relazione sull'Ndrangheta. In un anno e 3 mesi, guardate, è davvero tanto, perché noi avevamo una condizione del Parlamento dove al Senato, come ricordate, c'era una maggioranza di uno. Quindi io, per riunire la Commissione Antimafia, che è di 50 persone, Nando ne ha fatto parte, mi chiamavano quelli dell'Ulivo e dice: guarda, se i commissari vengono in antimafia favoriamo Berlusconi. Mi chiamavano quelli dell'opposizione e dicono: guarda, se noi veniamo lì favoriamo il governo. Quindi ero costretto a convocare la Commissione Antimafia nelle pause pranzo, quando non c'erano lavori al Senato, per evitare di favorire o la maggioranza o l'opposizione, perché, o la mafia, perché il Parlamento era in quelle condizioni. Questo per dire, insomma, senza una pressione dell'opinione pubblica e senza rappresentanti politici che interpretano quelle domande sociali, le istituzioni rischiano di svilirsi e di morire. Se c'è questo, si crea quella commissione, quella connessione sentimentale di cui parlavo prima. Velocemente sul libro. E da cosa nasce questa esigenza? Anche sì, lavorando sulla relazione sull'Ndrangheta e scoprendo questa dimensione globale. Ecco, l'Ndrangheta, non so se siete d'accordo, non è più una organizzazione che pratica reati transnazionali, è un'organizzazione globale, perché ovunque arriva insedia proprie strutture. E insedia proprie strutture, ha fatto bene Nando a cogliere questo elemento, che riproducono anche modelli e comportamenti sociali, culturali, antropologici in qualunque parte del mondo. Nel ristorante da Bruno, che non era una pizzeria, a Duisburg, dietro il salone era attrezzata una sala con 13 posti e sulla porta la statua di San Michele Arcangelo, che come sapete è il santo protettore dell'Ndrangheta, anche della Polizia di Stato. Sto santo è costretto a scindersi continuamente perché deve proteggere sia la... deve proteggere sia l'Ndrangheta che la Polizia di Stato. Comunque, con la statua di San Michele Arcangelo, E la strage è stata fatta il giorno del diciottesimo compleanno di uno dei ragazzi uccisi, e nella tasca gli hanno trovato il santino perché al diciottesimo anno lo avevano affiliato lo stesso giorno all'Andrangheta, quindi un doppio compleanno. Perché hanno bisogno di riprodurre lì diciamo un sistema di valori così arcaico, profondo? Perché devono produrre identità, senso di appartenenza, e ti devono dire che in qualunque parte del mondo tu sei, però è San Luca la fonte della tua legittimità, del tuo essere uomo d'onore, e questo ti dà potenza e forza. Del resto tutti gli analisti della globalizzazione spiegano che se tu ti vuoi difendere nella globalizzazione omologante devi partire dal territorio, devi difendere il territorio, devi difendere la tua identità. L'Andrangheta ha avuto questa capacità. I codici dell'Andrangheta con i riti di affiliazione Nicola Calipari li trova in Australia. Poi noi conosceremo purtroppo Nicola Calipari perché è ucciso nella guerra in Africa, ma li trova in Australia. Perché questa dimensione locale e globale? Perché così tu moltiplichi la tua forza, la tua identità, il tuo senso di appartenenza. Del resto parliamo di una mafia che proprio per la sua struttura costruita sulla famiglia originaria di sangue è stata la più protetta ed ha immesso nel mercato globale del crimine, e poi nel mercato globale punto, senza crimine, un prodotto unico e originale. Cioè io penso che l'Andrangheta ha colto le potenzialità della globalizzazione nel momento in cui Cosa Nostra era impegnata prima nella guerra interna per portare alla vittoria dei corleonesi, poi nella trattativa con lo Stato, con la politica delle stragi, tutta rinchiusa in una dinamica di contrattazione politica dei rapporti degli equilibri di potere, in quegli anni, a cavallo tra gli anni 80 e 90, l'Andrangheta coglieva due cose fondamentali. Uno, il passaggio dal mercato dell'eroina, per il quale Cosa Nostra invece era stata davvero l'organizzazione che aveva distribuito eroina dai laboratori siciliani, spesso gestiti con i marsigliesi, in tutto il mondo, in un rapporto diretto con Cosa Nostra americana. Il passaggio dal mercato dell'eroina alla cocaina, quindi a un mercato molto più ricco. E perdendo questa occasione, l'Andrangheta invece ne conquistava il primato. Secondo, l'Andrangheta ha avuto la capacità di cogliere le opportunità economiche e finanziarie che la globalizzazione offriva, cioè la possibilità di movimentare masse di capitali da una parte all'altra del mondo senza ormai alcun controllo, perché l'altra faccia della globalizzazione, e poi scopriamo anche che le grandi speculazioni ci hanno portato alla crisi che stiamo vivendo, era l'arretramento assoluto su ogni forma di controllo sui mercati, sulle transazioni finanziarie, sulle movimentazioni di capitali, il primato assoluto del mercato. Dentro il primato assoluto del mercato anche i capitali dell'Andrangheta, come i capitali di tutte le organizzazioni criminali e della corruzione, venivano reimmessi nell'economia legale. Cosa offriva l'Andrangheta? Un prodotto di qualità, cioè una mafia che aveva tantissimi soldi, perché usciva da tutta la gestione degli appalti del porto di Gioia Tauro, degli appalti dei sequestri di persona, della Salerno-Reggio Calabria, e quindi una grande liquidità finanziaria e un prodotto affidabile, cioè una mafia senza pentiti. Questa l'ha resa forte, potente, potente nel mondo. Cioè le trattative tra colombiani e calabresi si fanno con la stretta di mano e l'affare va in porto. Quando ci si mettono i siciliani, addirittura non garantiscono il pagamento di una partita di droga, io la racconto, sequestrano l'uomo di Messina Denaro, cioè Salvatore Miceli, e sono i calabresi che devono pagare il riscatto ai colombiani per farlo liberare, lo avevano portato nella giungla. Bisogna garantire il trasporto di 3 tonnellate di droga, e non è che si approcciano, vediamo, corrompiamo una nave con un equipaggio, no, comprano interamente la nave con tutto l'equipaggio in Grecia, cioè di questo parliamo quando parliamo dell'Andrangheta. È interessante, cioè, perché quindi è nato questo libro? Per rompere questa ipocrisia, cioè l'ipocrisia che le mafie finché non insanguinano le strade tu non le vedi, e questo vale per la Germania di Duisburg, come per la Spagna, come per il prefetto di Milano, come per Reggio Emilia, cioè vale ovunque le mafie vivono di una dimensione economico, finanziaria e imprenditoriale. Io per questo ho dovuto fare un lavoro complicato facendo questo libro, perché, lo dico davanti ad Anna Canepa, insomma, nessun organismo preposto alla lotta alla mafia ha mai pensato che serve fare un database, come le volete chiamare con le diavolerie moderne, un programma di censimento e di mappature delle mafie. Noi facciamo decine di convegni, sulla dimensione internazionale e globale delle mafie, ma non è venuto mai a nessuno in testa, né alla procura, né allo SCO, né nemmeno alle procure che indagano sulle proprie sulle organizzazioni dei loro territori e che si trovano reti internazionali, nemmeno alla DIA, di fare un programma di censimento. Cosa fanno? Dove stanno? Allora io ho pensato, e questo ha creato una difficoltà per fare questo libro, perché non essendoci un programma unitario, io ho dovuto ricostruire decine e decine di inchieste, leggere migliaia di pagine di per scoprire dove sta, per produrre queste cartine. Per esempio per la Spagna abbiamo fatto una cartina solo per la Camorra, che è un territorio molto sensibile per la Camorra, e una per la Cosa Nostra e l'Andrangheta. La Germania si capovolge, una sola per l'Andrangheta, che ovvero con la Brode, si spiega perché se tu devi eleggere un deputato all'estero hai bisogno dei voti delle comunità italiane, spesso le comunità italiane sono tutte controllate, come in Australia, dagli uomini delle mafie. E così via tutti i paesi del mondo. L'Africa è un colabrodo, per esempio. Perché l'Africa è un colabrodo? Perché lì tu ti puoi comprare con 5.000 euro il capo della polizia, e con 35.000 ti puoi comprare l'intero governo della Namibia, del Togo, perché c'è un livello di corruzione, democrazia che non esistono, guerriglie e guerre tribali che consentono alle mafie di comprarsi governi, di fare di quei porti dei porti franchi per tutti i traffici. E allora io ho pensato che andava rotta questa ipocrisia. Per esempio il rapporto del BKA, la polizia tedesca di cui parlava prima Anne Canepa, è del 2000, che racconta dettagliatamente, è ancora segretato, per io l'ho scritto tutto, diciamo. Vabbè, si può dire. Racconta in modo particolare cosa facevano i Sallucotti lì, i conflitti. Tra l'altro riproducono, questo è proprio interessante dal punto di vista scientifico e culturale da analizzare, loro riproducono una divisione del territorio in Germania. In Calabria spesso sono i torrenti, i fiumare, come le chiamiamo noi, a dividere i territori tra le entrine e i locali e le cosche. Loro utilizzano il Reno per dividersi il territorio, da una parte in Irta Strange e dall'altra in Pelle Vottari Romeo, e dividono il territorio così. Nel 2000 il BKA tedesco ci dice: guardate che questi fanno, hanno queste attività, hanno queste pizzerie, questi ristoranti, e sono in lotta, sono i protagonisti, e ce lo mandano a noi italiani. Poi loro non fanno più niente, perché per loro questi sono dei cittadini per bene, non avendo commesso i reati lì. Si riscoprono l'Andrangheta a Ferragosto del 2007, ma questa ipocrisia viveva anche quando siamo andati noi. Dopo la strage io con la Commissione Antimafia andai in Germania, e lì c'è un modello federalista perfetto da anni, non una barzelletta come quella che ci vorrebbero comunque, e lì i livelli investigativi, la giustizia, sono tutti nelle mani dei Länder. E allora andiamo nel Nordrhein-Westfalen, che è il Länder dove ci sta Duisburg, e ci accompagnano alla pizzeria da Bruno, il capo della polizia, il ministro degli interni. Ora sarò costretto domani in questo convegno dell'istituto italo-tedesco fatto dai giornalisti a Como sulle mafie in Germania, gliela ridico così. E ci accompagnano il ministro degli interni e il capo della polizia. A un certo punto fa: presidente, che peccato, che peccato. Dico: scusi, peccato che è chiuso da Bruno. Noi almeno tre volte la settimana venivamo a mangiare quel miglior ristorante. Ma come, stronzi, ce l'avete detto voi che nel rapporto questo delle famiglie, perché si vive di questa ipocrisia, che finché le strade non sono insanguinate tu non le vedi le mafie, non le vedi. E per esempio l'Olanda, io racconto questa storia dell'avvocato legato al casato, l'avvocato Van Cleef legato al casato reale. Ma è possibile che colombiani e calabresi, quando si devono vanno ad Amsterdam, quando si devono incontrare, non hanno nessun luogo, una teeria, un caffè, un bar? No, si incontrano nello studio dell'avvocato Van Cleef, che è il più importante avvocato presente nelle camere penali, legato alla regina in Olanda. E quando noi, i finanzieri del Goa intercettano le telefonate tra Colombia e Italia, e scoprono: ci vediamo lì, partono i nostri finanzieri da Catanzaro, perché sanno che se arrivano lì arrestano Sergi, e vengono bloccati all'aeroporto di Roma mentre prendono la coincidenza dallo stesso dipartimento antidroga del nostro ministero, perché intanto era scoppiato un putiferio. Io l'ho raccontata solo perché i finanzieri mi hanno detto: senti, ce l'abbiamo qui, scrivila e ti autorizziamo. Li hanno bloccati mentre erano in passaggio tra l'aeroporto nazionale e quelli internazionali, perché intanto l'Olanda aveva detto: non è che vi permettete a venire qui nello studio di Van Cleef, che quello è amico di... Cioè, funziona sempre così quando arrivi ai livelli medio-alti. Però perché la frase di cui parlava prima Anna Canepa? Canepa, vabbè, i meridionali l'accento sbagliamo sempre. Perché quando arrivi alle fasce della borghesia, del sistema imprenditoriale e della politica, lì non ce la fai. Ma dato che tu, mentre appunto una politica senza mafia può e dovrebbe esistere, ma una mafia senza politica, senza una connessione col potere non esiste, perché se no saremmo di fronte ad una normale forma di criminalità, allora se tu non aggredisci questo livello non ce la fai. Poi c'è sempre questa dimensione arcaico e moderna. Per esempio, qui hanno arrestato l'altro giorno l'ex sindaco di Trezzano sul Naviglio. Trezzano, no? Sì. Sul Naviglio. Beh, questo signore a un certo punto nell'inchiesta li hanno arrestati due bipartisan, uno da una parte e uno dall'altra, uno del PD e uno del PDL. Perché poi le mafie non hanno ideologia, sono i partiti che non sono impermeabili alle pressioni, sia della destra che della... sono i partiti che si devono impermeabilizzare dalle collusioni e dalle pressioni della mafia. Allora chiunque esercita una funzione di potere che può consentire loro di accumulare ricchezza, dimensione di potere politico, economico e finanziario, lo praticano con chiunque. Beh, questo era legato alla cosca. I rapporti riconducono sempre a Barbaro Trimboli. Noi abbiamo letto l'ultima parte del capitolo sull'Australia. Beh, questo Barbaro viene chiamato l'australiano. Perché viene chiamato l'australiano? Perché lui vive per anni in Australia, se ne va lì, vive a cavallo tra Milano e l'Australia, la famiglia Barbaro. Ecco, vedete la dimensione. Un paesino platì, 4.000 abitanti. E poi il sistema imprenditoriale a Milano, dove negli anni 70 e 80 costruisce un sistema legato al traffico prima dell'eroina, poi della cocaina. E poi in Australia, da dove gestisce il traffico tra la Colombia, l'Australia e l'Italia, e dove però investe, c'ha attività, ristoranti, si chiama l'australiano. E l'australiano, sapete, a un certo punto lui fa un sequestro di persona, vari sequestri di persona di quelli fatti in Lombardia, gestiti a Platini, li sequestravano qui, li portavano in Aspromonte. A un certo punto deve portare questi 500.000 euro in Australia, 500 milioni di vecchie lire in Australia, poiché il ministro dell'immigrazione, non la signora che ora è ambasciatrice attualmente mentre noi parliamo, uno di 15 anni fa era in visita a Platì. Ora perché il ministro dell'immigrazione australiano deve andare il giorno della festa della Madonna a Platì? Perché la comunità di Platì, esatto, e va a Platì. Allora lui, questo Barbaro, che non poteva mettere piedi in Australia perché era stato espulso dall'Australia, l'australiano era stato espulso dalle autorità australiane come persona indesiderata, incontra a Platì il ministro e gli dice: senti, ma me lo fai un permesso, c'è mia mamma che sta in Australia a 80 anni, me lo fai un permesso di una settimana? Lui va per una settimana lì col permesso scritto a Platì dal ministro. Pensate le storie, cioè questo rapporto tra Platì e il mondo, appunto San Luca e il mondo, Platì e il mondo. Va lì e poi le stesse autorità australiane documentano che era andato lì a depositare in banca i soldi dei sequestri di persone. Ora, Platì, cioè, voi avete idea che cos'è Platì? Manco ve l'immaginate, senza offesa, diciamo, sono calabrese pure. Ultime due cose, no, per ragionare su questa dimensione che mi ha intrigato, perché poi trovi delle storie piccole e grandi che ti pongono interrogativi e ti pongono anche un interrogativo di fondo. Non puoi delegare tutto questo alla magistratura. Hai bisogno di capire socialmente, di analizzare questi territori, questi comportamenti, perché non sono solo fatti penali e giudiziari. Certo, i reati sono fatti penali e giudiziari, ma quando diventano fenomeni sociali così pervasivi, tu li devi affrontare in questa chiave. Ritorniamo all'arcaico che ha affascinato Nando. A un certo punto i nostri finanzieri intercettano delle telefonate tra l'Aspromonte e la Paz. E allora telefona dall'Aspromonte un signore e risponde la vecchietta alla Paz, calabrese che vive alla Paz, vecchietta: ciao ma, sogno mico. Ciao mamma, sono Domenico per il nonno. Dice: mico, mo passi Antoni. E che, la mamma dice: sì, vai e ti chiama Antoni, vado a chiamarti Antonio. E arriva Antoni, ci fa Antonio dalla Paz, dice: mi, sì tu. E Domenico gli dice: sì, sogno io. A quel punto si interrompe il dialogo e comincia 15 minuti fischi. I nostri finanzieri impazziscono. Dice: come si fa? Alla fine, con una soffiata, dice: guarda che questi parlano tra loro col linguaggio dei pastori con le pecore. Cioè loro trattavano milioni di euro di cocaina parlando con l'alfabeto Morse. Guardate che non è niente di arcaico. è una risposta modernissima alla capacità investigativa e tecnologica che abbiamo noi. È come il pizzino di Provenzano che si sostituisce al telefonino e tu valla a intercettare un pizzino. Come lo intercetti un pizzino? Ora, se non cogli anche queste dimensioni, poi non ti spieghi perché questi sono anche una potenza economica e finanziaria, e ritorna alla modernità, perché la cosca che si compra il Caffè de Paris a Roma, avete visto che l'Andrangheta aveva comprato il Caffè de Paris, simbolo della dolce vita, e altri locali nel cuore di Roma, è la cosca Alvaro di Cosoleto. Cosoleto fa 941 abitanti ai piedi dell'Aspromonte. Negli anni 70-80 questi abitanti erano divisi metà tra pastori, metà tra agricoltori, trasversalmente il 70% tra pastori e agricoltori, sequestratori di persona. Questi accumulano talmente tanti soldi che investono nel traffico della cocaina. Oggi gli Alvaro sono una delle cosche più potenti che noi abbiamo. Beh, questi si comprano il cuore di Roma, attività economiche, commerciali, ma voi pensate che quattro pastori e pecorari si possono comprare il cuore di Roma senza commercialisti, finanzieri, banchieri, immobiliaristi, notai, cioè senza quel grumo di interesse che sta emergendo dalle intercettazioni che stiamo leggendo tra ieri e oggi? Allora questo è il tema che noi abbiamo, come contrastiamo le mafie in questa dimensione. Ecco, io ho raccontato queste storie piccole e grandi nel libro. La storia che ha colpito Nando dell'Alleanza di Secondigliano, e chiudo su questo, perché è interessante per capire la globalizzazione. Cosa fa la camorra? Mentre l'Andrangheta intercetta la grande opportunità della cocaina e ne diventa il broker internazionale e la possibilità di reinvestire nei mercati, la camorra utilizza una sua storica missione napoletana, tradizionale, quella dei magliari, i venditori ambulanti, e costruisce sull'esperienza dei magliari il più grande mercato globale della contraffazione, con una doppia attività. Tutti i prodotti contraffatti del il griffato italiano, Armani, Valentino, eccetera, eccetera, fabbricato nei laboratori tessili che loro hanno tra Secondigliano, Torre del Greco, Torre Annunziata. Badate bene, laboratori tessili dove vanno spesso le marche del nord, quelle vere, non contraffatte, che quando devono evadere fisco, praticare abbattimento dei costi del lavoro, invece che delocalizzare in Romania, vanno negli stessi laboratori della camorra. Però questo è un altro discorso. Allora, per il griffato dei tessuti vanno, producono loro. Per le tecnologie, la computeristica, ho scoperto questo mercato che per me era sconosciuto, i Trapani Bosch. Cioè, la camorra distribuisce Trapani Bosch in tutto il mondo, è un mercato di miliardi. Cosa fanno loro? Aprono questi negozi in tutto il mondo, cioè dall'Australia alla Spagna alla Germania a Praga, utilizzando le loro produzioni per i tessuti, per i marchi della moda. Le produzioni tecnologiche le importano da Hong Kong, Taiwan e dalla Cina, e quindi loro sono solo distributori. Costruiscono una rete commerciale. Hanno lo stesso consiglio di amministrazione di qualsiasi multinazionale che loro chiamano direttorio e che ha sede a Secondigliano. Tutte le centrali sono gestite da parenti, familiari, cugini. Anche qui tra camorristi e ndranghetisti ho fatto una fatica micidiale, perché si chiamano tutti uguali, soprattutto quelli dell'Ndrangheta, tu lo dicevi, tutti della stessa, tutti, quasi tutti le seconde generazioni, lo diceva Nando, nati tutti del 60, e tu vai a capire, un disastro. Io dovevo sempre chiamare quello dell'amico della squadra, ma Cristo che è un cugino, il nipote, mi perde. E mettono su una rete commerciale che è un vero e proprio mercato parallelo. E quei negozi hanno una doppia funzione: riciclare, vendere i loro prodotti ed essere basi logistiche per gestire poi le latitanze, quando ci sono latitanze soprattutto in Europa e in Spagna, oppure per gestire i punti di spaccio della cocaina e della droga in tutti i paesi del mondo. Allora, se noi non capiamo questa dimensione, io spero di aver stimolato anche ora tutti a fare un programma di censimento, in modo che il prossimo libro e l'aggiornamento, non bisogna leggere 100 atti uno per uno, ma insomma è necessario anche per gli apparati investigativi sapere cosa fanno, dove fanno, perché questa è stata l'idea del libro, raccontare l'altra faccia della globalizzazione per raccontare anche l'altra faccia delle organizzazioni criminali nostre. Io credo che noi oggi, se vogliamo contrastarle le mafie, dobbiamo riconquistare i territori, perché non esiste dimensione globale, non ci facciamo traviare da un libro così, non esiste dimensione globale senza un controllo del territorio ossessivo. La fonte, la legittimità anche della dimensione globale è l'avere un proprio territorio per qualunque mafia, se no crolla il principio costitutivo di una mafia, senza un controllo del territorio. Ma noi oggi, se non affrontiamo insieme la dimensione territoriale e locale e la dimensione globale, che è soprattutto dimensione economico-finanziaria, noi non ce la facciamo. Questo è il tema della globalizzazione, della trasparenza dell'economia e della finanza e anche di una dimensione nuova della lotta alla mafia, che io spero aver contribuito poco a stimolare. Grazie a Francesco Forgione, mi sembra che il suo racconto sia stato, però non mi ha risposto sui punti di vischiosità, io conoscendoti me l'aspettavo. La domanda della Commissione fatta antimafia? No, i punti di vischiosità istituzionali. Ah sì, subito. Perché lui è un torrente in piena, ha molta passione, moltissime cose da raccontare, però io credo che per chi qui cerca di capire come mai in Lombardia siamo così sguarniti, perché la Lombardia è così esposta all'andrangheta, ecco, per gli studenti che sono qui sia importante capire quali sono i punti di vischiosità, cioè chi li sta aiutando e in che modo. Sì, io penso che i principali punti di vischiosità stanno, la diciamo così, una parte in una sottovalutazione degli apparati dello Stato. Per esempio, io ritengo incredibile, osservando da qualche anno la Lombardia, che nessun prefetto abbia mai fatto un accesso su un'amministrazione comunale della Lombardia. Cioè che non ci si sia mai occupati della pubblica amministrazione, oltre che della politica, a livello dei consigli comunali, dove si gestisce il sistema degli appalti e dove tutti sanno che il ciclo del cemento, anche in Lombardia, una parte... Ah, ecco, che cos'è l'accesso? Allora, il professore, giustamente. L'accesso che cos'è? È la procedura che un prefetto attiva per verificare se in un consiglio comunale ci sono forme di inquinamento mafioso, sia nella dimensione politica, quindi il consiglio comunale, i consiglieri comunali, la giunta e il sindaco, sia nella macchina amministrativa, procedura alla fine della quale il prefetto, che invia dei commissari a fare questa indagine, questi commissari in genere sono o magistrati o poliziotti o investigatori eccetera eccetera, alla fine di questa procedura il prefetto propone al ministro degli interni lo scioglimento di un consiglio comunale. E, per esempio, in Lombardia, viste le tante inchieste anche degli anni 70 e 80, sui rapporti tra il sistema delle imprese collegate ad alcune amministrazioni all'andrangheta e il rapporto tra queste ed alcune amministrazioni comunali, ma penso quello più eclatante, Buccinasco, è incredibile che mai nessuno abbia fatto un accesso su quel comune, ma la scorsa estate tre sindaci, Corsico, Cesano Boscone e un altro, hanno scritto, non mi ricordo l'altro comune, hanno scritto alla Procura Nazionale Antimafia dicendo: guardate che i nostri comuni sono inquinati anche nella macchina amministrativa e noi come sindaci non ce la facciamo. Tra l'altro era interessante perché erano un sindaco della Lega e due del centrosinistra, quindi non c'era un problema, un colore politico. Hanno scritto alla Procura Nazionale e nessun prefetto si è preoccupato di avviare una procedura di accesso per verificare il livello di inquinamento. Quindi abbiamo un primo problema, è una sottovalutazione politicamente guidata di tenere basso il livello di allarme sociale che le mafie hanno su questo territorio. Secondo problema è il sistema delle imprese. Cioè, ormai le imprese della mafia convivono in un rapporto normale con le grandi imprese nazionali, grandi, medie o piccole imprese nazionali. Quindi non abbiamo più solo il problema delle imprese mafiose, abbiamo il problema del sistema delle imprese, perché quando si vince un appalto e dentro la grande cordata delle imprese milanesi ci stanno poi tre o quattro piccole imprese di prestanomi o di nomi diretta espressione della mafia calabrese, guardate che quelle tre, benché piccole e assolutamente apparentemente ininfluenti sulla grande cordata che ha vinto il grande appalto per costruire la nuova fiera o per costruire lo svincolo di Lodi, sto facendo esempi così, quelle però sono la condizione perché poi l'intero sistema sia controllato dalla mafia. Terzo è la politica, che qui fa finta di non vederla, perché io ricordo quando pubblicammo la relazione della Commissione parlamentare antimafia le reazioni che ci furono dalla politica qui, che non era vera, eppure fu approvata all'unanimità, tutti, centrodestra e centrosinistra, cioè sottovalutare il problema, non vederlo e poi non capire che qui sono arrivati i soldi. Sono arrivati i soldi prima di Cosa Nostra e sappiamo anche dove sono andati a finire al di là delle vicende penali e giudiziarie, perché sono scritte in decine e decine di sentenze. Sono arrivati i soldi dell''ndrangheta che vengono reinvestiti nell'economia legale. Quindi abbiamo un problema della politica, degli apparati dello Stato, del sistema delle imprese, che è tutto qui. Cioè la Confindustria lombarda, l'asso lombarda, l'ha mai espulso un imprenditore già condannato per associazione mafiosa, punto. L'ha mai espulso un imprenditore tra i tanti condannati per corruzione durante e dopo Tangentopoli, punto. Lo stesso esempio che è stato lanciato in Sicilia dalla Confindustria siciliana, primo tentativo di ripulire anche il sistema imprenditoriale, viene acquisito dalla Confindustria lombarda, che vuol dire la più grande associazione imprenditoriale d'Italia, quella che gestisce gli appalti poi in tre quarti dell'Italia. Perché noi abbiamo un problema delle imprese del nord qui, che quando vanno in Calabria a costruire, per esempio la Salerno-Reggio Calabria, la mattina vanno a fare l'accordo di legalità dalla prefettura e il pomeriggio si siedono con l'emissario della famiglia mafiosa per decidere il subappalto, le forniture di cemento, le forniture di calcestruzzo, il ferro e come gestire poi la sicurezza del cantiere. Allora, questi temi noi li dobbiamo porre sapendo ormai che non ci sono territori preclusi alle mafie e soprattutto all''ndrangheta, che la Lombardia è la quarta regione per beni confiscati, che in Lombardia abbiamo comuni sui quali io credo che bisogna partire con l'accesso. Per esempio Trezzano ieri, io spero che il prefetto abbia già predisposto l'accesso, perché è vero che hanno arrestato il marito della moglie, cioè l'ex sindaco, e anche qua insomma, no, l'ex sindaco che è marito dell'attuale sindaco. Ma se c'era un livello di perché ho visto che poi i nomi che si intrecciavano riguardavano la società che gestisce l'acqua, la società che gestisce i servizi, allora quel sistema prefigura un sistema di relazioni per il quale io mi auguro che il prefetto abbia già predisposto l'accesso su quel comune e che venga predisposto, e ho finito, l'accesso sui tre comuni che hanno segnalato un problema alla Procura Nazionale Antimafia, e che perché se no c'è una schizofrenia. Abbiamo il Ministro degli Interni che giustamente insedia una commissione di inchiesta e sugli appalti per l'Expo del 2015. Poi abbiamo un prefetto che dice che la mafia non c'è, un sindaco che tutto sommato dice che così è così, un presidente della regione che insedia una commissione che fa presiedere a un generale che in questo momento è sotto processo a Palermo. Insomma, c'è una schizofrenia generale. Abbiamo bisogno di trasparenza, di coerenza e di chiamare alla responsabilità la politica, il sistema delle imprese e anche gli apparati istituzionali. Io la vedo così. Grazie. Noi abbiamo, viene spiegato, abbiamo dei tempi da rispettare. Io non so se Giulio vuole leggere una pagina che lo ha colpito particolarmente. Facciamo le domande, facciamo parlare di nuovo. Allora io darei di nuovo un breve passaggio ad Anna Canepa, poi le domande a Forgione o all'Anna Canepa. Sì, dopo l'appassionato intervento di Francesco Forgione, che veramente ci mette l'anima, c'è poco da dire. Uno, mentre parlava Francesco, quello che ti viene in mente nella nostra Italia di oggi è anche la stretta connessione col tema della corruzione. Un tempo si diceva che dove c'era la corruzione non c'era la mafia e viceversa. Purtroppo al giorno d'oggi invece abbiamo imparato, e anche da quello che è stato detto qui oggi stamattina, che non è più possibile, non sono due mondi separati, sono due mondi che stanno, ahimè, congiungendosi. Quindi il problema della vischiosità della politica è anche un problema di etica, sia della politica che degli amministratori che di tutti noi. Non possiamo, e anche qui è inutile che ritorniamo poi a quello che è il tema che io ho a cuore, perché di fatto la magistratura, purtroppo anche questo è stato detto oggi, il ruolo della magistratura è quello di arrivare dopo, quando ormai è tardi, noi interveniamo quando i reati sono commessi, qui bisogna scindere i due piani, la magistratura deve intervenire sui fatti, ma vi è la necessità assoluta di prevenire queste situazioni, perché poi è troppo tardi. Sull'intervenire sui fatti c'è un problema di strumenti, un grosso problema di strumenti. Io faccio anche attività associativa per l'Associazione Nazionale Magistrati e quando sento parlare di aumento delle pene per i reati di corruzione veramente mi si drizzano i capelli in testa, perché noi abbiamo strumenti legislativi assolutamente adeguati, soprattutto per quanto riguarda, come dicevo prima, le tipologie dei reati. Non abbiamo bisogno, anzi avremo bisogno di diminuire, di come dire, sgravare il sistema penale di tutta una serie di... Adesso qui il discorso si allarga e potremo rincontrarci, però fa parte tutto dell'insieme, cioè avremo bisogno di una depenalizzazione sui reati minimi, penso a tutto il discorso dell'immigrazione, dei reati del clandestino che non ha commesso reato, se non il fatto dell'essere clandestino, che appesantisce la giustizia e rallenta il sistema. E nello stesso tempo tutto il discorso delle intercettazioni. Io quando mi sento dire ma le intercettazioni per la mafia non verranno tolte, questo è un falso, è vero, per i reati tipici 416 bis o i reati aggravati dall'articolo 7, ma voi non avete idea, e noi l'abbiamo, noi che stiamo dall'altra parte, quanti reati, cosiddetti reati spia, che non hanno nulla di mafioso nel momento in cui vengono commessi, penso ai reati dell'usura, ma penso ai danneggiamenti, quei danneggiamenti soprattutto nelle zone non tradizionalmente mafiose, penso alla Liguria, penso alla Lombardia. In Liguria è stato fatto un monitoraggio di incendi per autocombustione nei cantieri. Questi reati, se tu non puoi più andare ad intercettare o il discorso dell'intercettazione a carico degli ignoti, c'è tutta una problematica, è inutile dire ma noi ve la lasciamo lo strumento per i reati di mafia. Il problema non è il reato di mafia, prima di riuscire ad arrivare soprattutto nei territori dove non vi è la presenza tradizionalmente della mafia, è tutto molto complicato. Quindi se non affrontiamo questi problemi con onestà intellettuale, quella che noi magistrati che facciamo autocritica, noi non siamo immuni, siamo una rappresentanza della società e stiamo facendo un'autocritica e proviamo anche a fare un'autoriforma. La lentezza dei processi è legata a tutto un sistema che non funziona, però dobbiamo davvero con onestà intellettuale affrontare il problema. Non possiamo privarci di strumenti come le intercettazioni telefoniche, su questo bisogna fare battaglia. Me ne dispiace della privacy dei soggetti, su questo posso essere d'accordo, però questo non deve assolutamente privarci di questo strumento, come non dobbiamo privarci dello strumento delle collaborazioni di giustizia, che è un altro degli strumenti sempre discussi, sempre attaccati. L'Andrangheta ce lo insegna, le società segrete possono essere comprese dall'interno solo se c'è qualcuno che tradisce e ti racconta com'è. L'Andrangheta, che oltre a essere segreta è anche una società strettamente familistica, effettivamente è poco aggredita, è poco contaminata dal sistema delle collaborazioni, però un altro è fondamentale, anche di questo ogni tanto c'è il rigurgito in cui si va a criticare, ogni volta che il pentito parla del politico si critica questo strumento. Noi non possiamo consentirci di privarci di questi strumenti che sono stati fondamentali per aggredire Cosa Nostra, e non è stata sconfitta, ma sicuramente ha subito dei contraccolpi di cui ha approfittato l'Andrangheta, ce l'ha raccontato Francesco Forgione oggi, ma nello stesso tempo dobbiamo essere assolutamente fermi. Anche qui sono davanti a studenti, penso di giurisprudenza o di scienze politiche, abbiamo pendenti dei progetti di legge che sono assolutamente contraddittori contro la lotta alla corruzione e la lotta alla mafia. Penso al progetto di legge 1440 che è pendente in Parlamento e che ad esempio, parlo davanti a quasi tecnici, impedirà di poter utilizzare le sentenze passate in giudicato che attestano che il fatto è stato commesso nei processi. Questa sarà una zeppa mostruosa che rallenterà ulteriormente la macchina della giustizia. Di questo io ritengo si debba parlare quando vogliamo parlare di affrontare seriamente e senza infingimenti il problema della corruzione e della mafia in Italia. È una voce che arriva tonante dalla magistratura. Giulio Cavalli, una cosa che ti ha colpito del libro? Sì, sarò brevissimo. Ecco, io stavo pensando, tra l'altro, quanto è strano che ci sia una donna di legge che parla della mafia, di quanto la mafia sia un problema culturale, no? Noi siamo un paese abbastanza strano, e quanto invece quando delle persone che meno male per professione si occupano di cultura e provano a porre il problema, si sentono dire che invece è compito della magistratura. Quindi c'è questo gioco di rimbalzo in cui non si riesce mai a prendere la palla al volo. Io credo, quando ho letto il libro di Francesco, poi io in realtà penso che il lavoro di Forgione sia un lavoro per quella che si chiama, adesso va molto di moda, la società civile, forse Francesco è l'espressione più alta della raccolta della società civile nell'attività antimafia. In un paese normale un libro come questo, l'autore o viene arrestato e incarcerato per procurato allarme, oppure non dovrebbe essere in un'università a parlare con degli studenti, cioè dovrebbe avere un ruolo attivo e almeno degli strumenti istituzionali per continuare a fare il suo lavoro. E in realtà il libro, io penso che il libro Mafia Export in realtà si inserisce comunque in quella linea che la Lombardia molto spesso è riuscita e continua ad usare con grande sapienza, che è quella di parlare del problema mafioso come un hobby di aiuto verso qualcuno. Quindi io temo che da domani qualcuno delle istituzioni Lombardia dirà: ah sì, è vero, l'Andrangheta è un problema della Calabria, o la Cosa Nostra è un problema della Sicilia, diranno: beh, anche in Australia però ho sentito che... E non si riuscirà mai invece, no, a parlare di questo. E se, leggendo i giornali in questi ultimi due giorni, in realtà è poi uscito proprio questo problema culturale, che è un problema culturale che secondo me è abbastanza evidente, soprattutto appunto io sono d'accordo nel linguaggio delle intercettazioni. A me hanno colpito due frasi. Sulla vicenda di Trezzano su Naviglio mi ha colpito, sapete, ad un certo punto devono andare in comune e dicono: vado a prelevare 10.000 euro perché altrimenti, se non abbiamo soldi in tasca, non è che possiamo fare figure di merda. Questa è la frase, no? E quindi vuol dire che esiste un galateo che a noi è completamente sconosciuto, che è quello, un galateo assolutamente indegno tra criminalità organizzata e politica, che invece è l'esatto contrario di quelle che sono le regole del vivere civile nostro. E allora, e poi questo, il libro Mafia Export è un libro allarmista in una regione che continua a tarditare gli allarmisti. Ecco, io ci ho pensato un po' mentre tornavo stamattina in terreno, diceva: io rivendico il diritto di essere un allarmista. In Lombardia io rivendico il diritto di essere un allarmista, ovvero rivendico il diritto e il dovere di usare l'allarme, così come il lavoro di radicamento culturale, così come il lavoro di informazione, come uno dei mezzi per cercare di creare consapevolezza e coscienza nelle istituzioni e nella società civile di questa regione, riconoscendo che è un mezzo, direi, abbastanza spigoloso e appuntito, ma che sarà sempre più dignitoso dei mezzi sempre più infami, che ci stupiscono sempre di più ogni volta, sono molto più in là di quello che crediamo, leggendo invece tra questa politica che si è completamente prostituita alle mafie in Lombardia. Basta. Sono domande a cui i nostri ospiti risponderanno in modo velocissimo. La miseria, in fila. Proporzionata alla velocità delle domande. Sono tantissime, allora, prego, vado in senso orario. Grazie. Membruder, io non studio storia, studio culturali, quindi parlo per lo fare. Mi è capitato però di intervistare un magistrato, un giornalista della stampa, che mi ha spiegato come il problema dell'antimafia a Milano, un problema soprattutto non dalla polizia, perché abbiamo la migliore antimafia del mondo, però è un problema legato ai finanziamenti che dallo Stato, perché il rapporto tra il numero di poliziotti che si occupano della cosa e gli affari in Lombardia è assolutamente iniquo. Cioè, hanno detto che più di due indagini in corso non riescono a fare contemporaneamente indagini. Volevo sapere, è una teoria che mi era venuta. Invece, guardando la situazione europea, l'Unione Europea mette molti fondi a disposizione per le regioni in via di sviluppo, le regioni in nuove entrate. Volevo sapere se era possibile creare un fondo internazionale contro le mafie europee. Accorpiamo, no? Sì. Le accorpiamo tutte, sì. Io volevo sollevare una questione che apparentemente può sembrare fuorviante, ma secondo me è molto, molto importante. Ecco, per essere, anch'io sono di scienze dei beni culturali, teatro e cinema, sono anch'io infiltrato, e la questione riguarda, secondo me, il rapporto tra produzione artistica, cinema, teatro e letteratura, e con la o sulla criminalità organizzata. Ora, io in questi ultimi anni sto vedendo una tendenza un po' strana. Si parla molto di camorra. Gomorra, per esempio, sia romanzo che libro. Oppure il recente film Fort Apache. Mentre invece sulla mafia, dal punto di vista artistico, si è creato un silenzio inquietante. Cioè, noi siamo passati da un'epoca in cui avevamo intellettuali come Sciascia, che è stato il primo a parlare di mafia, a seguito poi tutti i film tratti dai suoi romanzi, fino ad arrivare al più recente Mary per sempre o addirittura Alla luce del sole. Bene, oggi il cinema ha smesso di parlare di questa di mafia, e la cosa più inquietante è che la palla l'ha passata alla televisione e alle fiction. Quindi con tutte le regole di tagli, di appoggi, di regole cinematografiche. Quindi con film più o meno riusciti, altri assolutamente. Mi premiare, siete tantissimi a dover però fare veloce. Domande. Non riusciti. Siete tantissimi. Ecco, io vorrei sapere, secondo voi, questo silenzio, da un punto di vista artistico, non è inquietante? Perché comunque la rimozione collettiva, il cinema e la letteratura hanno aiutato a comprendere questo fenomeno. Non a caso, qui concludo, il nostro presidente si è improvvisato, ahimè, critico cinematografico, e una delle sue ultime espressioni è stata: strozzerei quello, il regista della Piovra, per aver fatto una schifezza tale. Ecco, io vorrei sapere la vostra opinione su questo. Anche chi scrive i libri. Io sono uscito il giorno della dichiarazione sui libri. Allora, cercavo di essere davvero, siete veloci, domande senza premesse. Allora, domanda molto semplice: dopo questo quadro ben definito e preciso che voi ci avete dato, a noi che ci resta a fare? La rivoluzione. No, dico noi, perché abbiamo visto più spesso che voi che siete stati per qualche anno in Parlamento, come molto spesso la casta ha pensato di difendere coloro i quali sono stati imputati processi eccellente, passiamo al caso Andreotti, peraltro è finito con la prescrizione fino all'80 per l'associazione delle libere, un cosa nostra. Ecco, noi che cosa possiamo fare di questo momento? Di là? Ci aiutate voi per il giro così, in senso, c'era il signore. Buongiorno, vorrei fare una dottoressa. Il dibattito sono emersi quantomeno almeno 5 legami fondamentali che hanno a che fare con il tema della mafia export. Il primo è mafia politica, il secondo è mafia economia, il terzo, hai capito sempre, tra mafia e corruzione, il quarto tra mafia come problema sociale e il quinto tra mafia e globalizzazione. Quindi alla luce di questi rapporti chiedo, dottoressa, qual è il grado di difficoltà nel contrasto alle mafie in un contesto come quello italiano, in cui ci sono tanti ipocrisie, come le definiva poc'anzi il dottor Forgioni, se vi sono delle campagne di continue e mediatiche di delegittimazione nei confronti della magistratura e dell'informazione, che hanno esclusivamente dei compiti fondamentali, quello di indagare e quello di informare. Buongiorno. Riguardo il capitolo sul Messico e quindi Messico e Lingue, volevo fare una domanda, se ci sono ancora, se ci sono altre indagini in corso riguardo alla connessione tra la 'ndrangheta e i cartelli messicani, o se quello che ha scoperto l'operativo di Guida e Para, l'operativo solare, è solo un'indagine, diciamo, è stata estemporanea, e quindi questa alleanza si limita a questa situazione, o se invece i messicani, nella sua opinione, possono essere i successori dei colombiani di traffico di cocaina. Oltre solare. Cosa ha chiesto? Se mi si capisca, non c'è tutto il signore lì in fondo. Il signore lì in fondo. Non la faccia severa, la faccio una domanda. comunisti. Sì. La storia ci ha insegnato che comunque tutti gli imperi prima o poi subiscono un processo di disgregazione. Anche questo tipo ci rivela anche l'Andrangheta soprattutto ha formato un impero proprio globale in tutto il mondo. È possibile che ci sia un livello di coordinazione tra le varie Andrie, tra le famiglie, tale da far sì che ci sia una pace. Capisco che anche l'Andrangheta ha la sua cupola che ordina, ma che ci sia una pace così ferrea tra le varie dinastie, le varie famiglie, da non far percepire, da rendere invisibile tutta questa situazione. È una cosa che mi lascia un po' perplesso, non capire se effettivamente c'è questa pace oppure sotto sotto ci sia qualche movimento. Signore in fondo. Sì, io non sono uno studente, perché ho scelto di prendere un giorno di ferie proprio perché sono stato informato di un tema così importante con dei relatori così prestigiosi. Non essendo uno studente, evidentemente la domanda la pongo da un'altra prospettiva. Innanzitutto quello di lettori di libri. Di pubblicistica in materia, ormai da diversi anni ce n'è a tonnellate. Ben venga, perché il pubblico deve essere informato su un fenomeno così importante e così grave che colpisce il nostro paese. La prima domanda che faccio è proprio questa. Visto che l'introduttore ha parlato di un'analisi, quando ha presentato i relatori, il giovane introduttore ha detto un'analisi rivoluzionaria, eccetera, eccetera. Volevo capire, rispetto a precedenti testi, ad esempio a quello di Veltri sulla mafia pulita, dal titolo della mafia pulita o altri testi analoghi, di grande stampo giornalistico, da questo punto di vista è in dubbio, in che cosa si differenzia, oltre al fatto di raccontare fatti nuovi e importanti su cui deve essere centrata la nostra attenzione. La seconda domanda che faccio è invece da, non da lettore di libro, ma da società civile, come diceva Giulio Cavalli, grazie alla sua struttura che sono stato informato, veramente ringrazio del fatto che funziona adeguatamente. Ecco, da società civile io mi rivolgo sia a due nomi così prestigiosi come Nando Dalla Chiesa e Francesco Borgioni, chiedendo va bene l'informazione, va bene il dato, va bene la conoscenza, ma quello che gli inglesi chiamano come livello superiore l'acquisto, la saggezza, dove si esprime? Solo nei livelli istituzionali, vale a dire un programma politico che non è soltanto combattere la mafia, oggi non significa semplicemente fare in modo che la magistratura svolga il suo ruolo, che lo svolga in maniera adeguata, e i magistrati perché svolgono il loro ruolo non devono passare per errori, insomma. Ma ci deve essere anche un programma politico, perché proprio la dottoressa Canepa parlava della mafia come fenomeno politico. Allora mi chiedo, a questo punto di vista, le organizzazioni politiche, quale programma espongono per indirizzare un fenomeno di questo tipo? Faccio un esempio, visto che si parla del meridione, io sono pugliese, forse cercatino, o comunque meridionale. Umberto Santino. Umberto Santino, da questo punto di vista, si può essere d'accordo o non d'accordo con le sue analisi, ma ha dato delle indicazioni da questo punto di vista abbastanza preciso. Dice che sono tre i fattori su cui si sviluppa un fenomeno di questo tipo. Il mercato nero dovuto a forme di proibizionismo, riferendosi alla droga, alla produzione e alla commercializzazione della droga. In secondo luogo, al fatto che della opacità delle leggi finanziarie che ha consentito, che consente il finisco, che consente il riciclaggio della droga. E il terzo fatto che la mafia viene anche usata in senso anti-operaio e anti-contadino in generale. Una volta. La mafia oggi è presente in questo tempo. Ecco, su questi due aspetti chiederò eventualmente una risposta. Grazie. Farei l'ultima. Vorrei sapere quanto. Dov'è? Indietro. Quanto è difficile combattere la mafia nel caso di Carlo Andrangheta quando ci sono persone, alcune persone mafiose, che sono incontrate all'interno delle istituzioni e dello Stato stesso. Quando si porta persona a capire lo Stato lasciano che ti sottrai. No, no, sono sotto prova di casa, qui c'è un mio studente, che deve dire una cosa. C'è un altro, ragazzi. Cominci tu, Anna. Sai, la mia è brevissima. No, rispondi tu. Parliamo oggi di mafia export, quindi la mafia che va all'estero, per quella di Australia, di Germania. Ecco, perché invece i luoghi di origine rimangono estranei? Cioè, ci sarebbero tutti i mezzi per magari far iniziare a portare lavoro, far partire delle aziende, magari nelle terre dove proprio nasce la mafia. Mentre invece c'è questa sorta di simbolismo, possiamo chiamarlo, cioè si rimane, si vuole rimanere magari aggrappati a questo ambiente più rurale, non c'è sviluppo magari nelle terre dove la mafia proprio prende origine. Telegraficamente i nostri ospiti, prima Anna Canepa, poi Francesco Forgione, io ci rinuncio. Sì, io per quello che mi aspetto, e voglio lasciare spazio a Francesco che poi è il protagonista di questo incontro, per quello che mi aspetto, magistratura, risorse, noi all'estero veniamo guardati come un esempio per la nostra legislazione in astratto, per la capacità della magistratura di aver affrontato l'emergenza mafiosa in anni drammatici quali quelli ad esempio delle stragi, per gli strumenti giuridici noi veniamo presi come esempio. Benissimo, cito il libro di Francesco, quando ad esempio la Spagna, che è un paese vicinissimo a noi, contaminato quanto noi in maniera diversa, ad esempio ha un sistema carcerario per i mafiosi assolutamente rilassato. Ci sono i boss mafiosi latitanti che vengono incarcerati in Spagna che dicono: siamo qui in un carcere, sembra di essere alla Valtura, non esiste il 41 bis. Noi gli strumenti li abbiamo. Abbiamo anche una magistratura sufficientemente professionale che non solo fa l'eroe, ma è, purtroppo suo malgrado è dovuta diventare eroe. Io ricordo i colleghi che sono stati uccisi in nome della loro professionalità, soprattutto veniamo guardati all'estero come un esempio. La stessa direzione nazionale antimafia è la prima struttura che è riuscita a fare, ad attuare quel coordinamento, e anche se non ha fatto la mappa, però è una struttura che viene presa come esempio. Il problema anche qui è un problema di volontà politica, perché la politica di qualunque colore è quella che ti dà le risorse, anche materiali. Noi abbiamo questo problema, che è un problema serio e concreto, però bisogna vedere come affrontarlo, che è il problema della lentezza dei processi, che rallenta e vanifica l'impegno di tutti, l'impegno delle forze dell'ordine e l'impegno della magistratura. È un problema reale che non viene affrontato, che non viene affrontato seriamente. Anche qui potremmo parlare ore. Il primo problema è la ridistribuzione delle risorse sul territorio. Non c'è stato un governo, questo aveva la forza politica per farlo, che abbia affrontato questo problema. Finché il problema non viene affrontato alla radice, siamo qui a fare discorsi, e purtroppo l'impegno e i risultati che ci sono, negli anni ce ne sono stati tantissimi, io penso a cosa ha fatto la magistratura palermitana, gli ergastoli che sono fioccati, a cosa stanno facendo in Calabria, stanno facendo ottime cose, però rimangono sforzi non dell'intero paese, non dell'intero sistema, ma sforzi purtroppo dei singoli. Questo non va bene. Tutto la mafia, la criminalità, ma il sistema giudiziario potrà funzionare se c'è, e anche qui lo ridico con grande onestà intellettuale, il paese se ne deve fare carico. E purtroppo in questo momento chi ci mette la faccia sono i magistrati, che fanno i loro errori, ma purtroppo chi risponde delle inefficienze siamo noi, che invece abbiamo anche pagato con la vita l'impegno che ci abbiamo messo. Velocissimo. Allora, cercando di non lasciare fuori nulla. No, i fondi, un fondo europeo per la lotta alla mafia. Noi dovremmo provare a raggiungere una legislazione minima europea di contrasto, almeno con il riconoscimento del reato di associazione mafiosa, che ormai è un problema che non riguarda solo l'internazionalizzazione delle mafie italiane, ma riguarda nel teatro europeo la presenza di tutte le mafie e le organizzazioni criminali che hanno assunto tipologie mafiose e che provengono dai paesi, per esempio, dell'ex patto di Varsavia. Quindi abbiamo un problema di riconoscere il reato ed unificare lo strumento del contrasto. contrasto e riconoscere, almeno in una dimensione europea, il sequestro e la confisca dei beni, perché quella è la dimensione che riguarda, che fa da fondamento all'internazionalizzazione, e questo tema noi ce l'abbiamo. Unificando questo, ovviamente dobbiamo unificare, ben al di là dell'esistenza di Europol, i livelli investigativi e i livelli anche giudiziari di contrasto. Secondo, cinema, arte, cultura, io sono d'accordo con te, non devo aggiungere altro a quello che hai detto tu, se non che noi dobbiamo però anche legare la capacità di una produzione culturale alla ricostruzione di una cultura critica della realtà che ci faccia vedere le mafie nella loro modernità. Ecco, questo è il tema anche del libro, che forse per alcuni aspetti si differenzia da altri, ma un punto di differenziazione nel panorama editoriale c'è, ed è l'esistenza delle prime mappe geocriminali di tutto il mondo. Ecco, io poi il resto, ci sono libri interessantissimi, io li leggo tutti, vi invito tutti a leggerli, diffido di quelli che sono la ricopiatura solo delle intercettazioni telefoniche che fa la magistratura e i carabinieri, senza analisi critica anche di lettura di quelle attività. Però c'è tanta roba, una cosa non c'è e non c'era nel panorama editoriale, che è la mappa e la geografia criminale delle mafie italiane nel mondo. Messico, velocemente. Il Messico non si sta sostituendo alla Colombia semplicemente per un fatto, che il Messico non ha la produzione propria di coca, però è diventata ormai una rotta fondamentale, soprattutto nel passaggio tra la Colombia, gli Stati Uniti, e per quella via l'arrivo in Europa come rotta delle nuove come nuova rotta della cocaina colombiana. I cartelli messicani, io sono tornato la scorsa settimana dal Messico, stanno assumendo due caratteristiche interessanti per chi le studia. Dal punto di vista dell'organizzazione stanno mutuando i cartelli colombiani degli anni 80 e 90, come struttura fino alle forme del paramilitarismo. Per quanto riguarda il controllo del territorio stanno mutuando il modello sociale mafioso delle mafie italiane, cioè il pizzo, il racket, l'estorsione, il controllo della politica, il controllo dei consigli comunali, il controllo degli apparati dello Stato, financo la produzione culturale. Ho scoperto, tu lo studierai, i narco corridos sono l'equivalente dei neomelodici napoletani, cioè anche loro hanno il problema di riprodurre una cultura e riprodurre quella cultura per produrre meccanismi di consenso sociale. Interessante da questo punto di vista sono anche i riti di affiliazione e l'impianto simbolico, che è assolutamente mutuato dall'andrangheta di Cosa Nostra, anche nel rapporto con la religione e con Dio. Noi abbiamo i nostri santi, loro hanno Sant'Andres, eccetera, sto andando telegraficamente, insomma. Ecco, quindi però questo è anche interessante da studiare per capire come dentro i processi di globalizzazione delle organizzazioni criminali poi alcuni modelli si ripropongono. Perché? Perché servono a produrre il consenso del quale si devono nutrire queste organizzazioni criminali e mafiose, sia nella forma mafiosa italiana, sia nella forma del narcotraffico internazionale. Secondo, l'altro, la cupola Lendrina, io penso che ormai l'andrangheta, per la dimensione globale che sta assumendo, Non può più continuare ad essere strutturata come l'abbiamo conosciuta solo con Lendrina nel rapporto con il loro territorio. Ormai è chiaro che ci sono forme di organizzazione, di coordinamento, non la chiamiamo cupola, non nelle forme siciliane, ma di sicuro che ci sia una struttura di direzione che tiene assieme la piana di Gioia Tauro, la Ionica, la città di Reggio Calabria, e nella dimensione globale ormai abbiamo più elementi per poterlo dire, di sicuro partecipa alle scelte strategiche gli australiani, i canadesi, i lombardi e i tedeschi. Questo è un dato acquisito e ci pone per la prima volta una novità, cioè una mafia che anche nella sua direzione strategica e globale. Del resto, almeno una volta l'anno, la riunione di San Luca d'Aspromonte era una riunione che al santuario della Madonna di Polsi, che delineava le linee strategiche da un anno all'altro, individuava il capo da un anno all'altro. Ora siamo in una fase successiva. Volete sapere perché ce n'è ancora di più bisogno? Secondo la mia analisi, la butto qui, ma sarebbe oggetto di un'altra conferenza, perché in Calabria sta arrivando la più grande massa di miliardi mai arrivata nella sua storia, che cambierà il paesaggio sociale, economico e politico di quella regione, cioè la costruzione del ponte sullo stretto. E la mafia, come Cosa Nostra, non può permettersi di non gestire quell'affare coordinandosi. Per questo siamo di fronte ad una sorta di riassetto degli equilibri interni, soprattutto nella piana di Gioia Tauro, l'Alvaro e i Piromalli che sostituiscono i Molè, e nelle famiglie di Rosarno, che abbiamo visto nella vicenda dei migranti, cioè i Pesce e Bellocco che si riequilibrano e sono in lotta tra loro, perché soprattutto quello sarà il terreno nel quale l'andrangheta si misurerà nei prossimi anni. Poi il rapporto con la politica, per chiudere, poi ne avrò dimenticate tante cose, però insomma, cosa possiamo fare noi? Noi abbiamo il dovere di costruire indignazione, poi le cose che diceva Giulio, noi abbiamo il dovere di costruire indignazione. In questi anni, anche dopo Tangentopoli, insomma, abbiamo delegato alla magistratura, abbiamo pensato che alla fine quello fosse il nodo. No, dobbiamo ricostruire un'indignazione sociale. Senza un'indignazione sociale, senza un'opinione pubblica permanente di pressione con la politica, anche conflittuale con la politica tutta, badate bene, questo tema ormai è un tema che riguarda equamente il centro, la destra e la sinistra, ma non perché le responsabilità sono le stesse, perché non è che c'è una responsabilità di chi fa una debole denuncia pari a quello che si tiene Cosentino nel governo dell'utile Cuffaro in Parlamento e di Gerolamo senza il diritto lo fa eleggere, no, ma perché noi abbiamo un problema di caduta della centralità del tema. Io ritengo che il tema delle lotte alle mafie e alla corruzione, per le cose che ci siamo detto, per il livello di pervasività nell'economia, nella società, nelle istituzioni, nella politica, non può essere, e Nando lo sa bene perché è stato come me un rappresentante politico e per fortuna tutti e due possiamo starne fuori continuando a fare politica, perché stiamo facendo politica e stiamo producendo cultura con il nostro lavoro e il nostro impegno, non può essere un punto del programma indipendentemente se lo metti al primo, al secondo o al trentesimo posto dei partiti, o diventa una chiave reinterpretativa della realtà, dell'economia e della politica alla lotta alla mafia. Io attraverso quella lente della lotta alla mafia e alla corruzione leggo i processi sociali, i processi economici, i processi politici e rifondo un'idea di società, o se no non ce la facciamo e non ci possiamo accontentare di batterci perché nel programma di Settimo Milanese alle comunali ci sia inserita a un certo punto e poi c'è la lotta alla mafia e per la legalità. No, o quella diventa la chiave interpretativa di tutta la politica, delle politiche sociali, delle politiche economiche sul territorio, della costruzione del lavoro, della politica urbanistica e delle politiche ambientali, del rapporto tra politiche pubbliche e esternalizzazione dei servizi. Cioè, o diventa una chiave reinterpretativa e per questa via riscrive il programma dei partiti e delle coalizioni di governo, o se no produrrà l'ulteriore delega alla magistratura, e Anna Canepa ci ha spiegato che la magistratura arriva sempre dopo che si commette il reato, perché? Perché ha bisogno delle prove, e ci troviamo in una condizione in cui la magistratura arriva dopo perché ha bisogno delle prove e la politica arriva dopo la magistratura perché prima non è in grado di prevenire e di ripulire se stessa. Se noi vogliamo affermare il primato della politica vuol dire che non dobbiamo aspettare la magistratura e dobbiamo costruire le condizioni per ripulire la politica di tutto il sistema di collusione, sapendo però che non è che siamo di fronte a un processo per cui la politica vive in una dimensione di corruzione e la società civile vive invece in una condizione di illibatezza. No, purtroppo i processi degenerativi hanno attraversato la politica come la società. E fatemi concludere in modo partigiano con Gramsci: senza una riforma sociale e una riforma morale noi la lotta alla mafia non riusciremo a farla, perché abbiamo bisogno di vincere nelle aule dei tribunali dove dobbiamo avere verità e giustizia. Per vincere abbiamo bisogno di autonomia e di indipendenza della magistratura, perché se no l'azione di legalità si ferma alle soglie del potere politico, economico e finanziario. E questa è una condizione, diciamo, irrinunciabile per noi. E da questo ne discende l'uso di tutti gli strumenti, le intercettazioni, i collaboratori di giustizia, l'autonomia investigativa del pubblico ministero. Ma poi noi la lotta alla mafia la vinciamo nella società. Per questo dobbiamo tenere insieme l'impegno politico, l'impegno legislativo, la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e l'autonomia della società civile, che o ritrova se stessa e per questa via riforma politica e istituzioni, o perderemo una battaglia che, come è stato detto, non è contro la criminalità ma è contro, diciamo, un male che ha a che fare con la democrazia e la crisi della rappresentanza nel nostro paese. Io intanto ringrazio gli ospiti, penso che l'Università di Milano oggi abbia vissuto un'altra giornata di impegno importante. Queste sono occasioni in cui si cresce, si acquistano consapevolezze. L'Università di Milano è attualmente attraversata da movimenti di interesse e di opinioni particolarmente importanti. l'avete organizzata voi, quindi chiudete voi. Giustamente il ringraziamento però va anche agli organizzatori, perché hanno avuto l'idea, hanno contattato i relatori, hanno deciso che questa era materia da portare in un'aula universitaria al di fuori di un corso. Allora sì, anche noi, vabbè, siamo giunti alla fine dell'incontro, ringraziamo tutti voi per essere venuti, ringraziamo la casa editrice Baldini e Castoldi per la disponibilità e il dottor Salvatore Vitellino. E ringraziamo anche noi gli ospiti, a cui auguriamo buon lavoro e insomma speriamo di rivederci presto. E, come laboratorio Lapsus, per eventuali prossime iniziative, novità, approfondimenti, rimandiamo al sito www.laboratoriolapsus.it e alla prossima. E se siete interessati all'acquisto del libro, lì c'è un banchetto con appunto un po' di cose disponibili. Grazie a tutti. Thank you.